Bene, allora intanto vi do il benvenuto. Sono contenta che siete venuti a questa conferenza che è molto interessante. Rientra nel ciclo La ricerca in Alto Adige, che è un ciclo che ci siamo inventati quest'anno perché questa biblioteca, da quando è nata, avendo la mission di raccogliere anche la documentazione locale, era partita con l'idea di premiare le tesi che avessero questo tipo di aggancio, ecco, come contenuti, come argomenti, indipendentemente dal settore indagato. Quindi ogni anno in dicembre presentavamo le tesi, premiavamo gli studenti e le studentesse che ce la consegnavano, poi procedevamo con la catalogazione e tutto questo materiale, come a tutt'oggi, veniva messo a disposizione del pubblico. Però ci dispiaceva perdere il contatto. Scusate un secondo. Ecco, no, perché sennò perdiamo. Abbiamo già il contatto adesso. Coletti. Ecco, perdevamo un po' il contatto con questi studenti, con questi giovani che avevano frequentato anche la biblioteca, avevano magari fatto delle ricerche qui da noi. E così è nata anche questa idea di non perderli, ma di invitarli in biblioteca a presentare in una maniera un po' più tranquilla e anche con un taglio magari più divulgativo i contenuti del loro lavoro, della loro indagine, che magari li aveva impegnati per parecchio tempo e insomma sono lavori sempre molto certosini e molto anche complessi, che apportano delle novità, ci spalancano degli aspetti assolutamente nuovi, ma non sempre intellegibili, ecco, per il pubblico, ed era interessante sentirlo invece spiegare in una maniera più soft, con un po' più di calma. Siamo quindi così partiti questo gennaio con una tesi di linguistica, dove Laiza Francato ha presentato appunto alcune corrispondenze letterarie nella cosiddetta letteratura di confine, anzi con un dibattito se esiste o non esiste, se è nata oppure se è ancora in bozza. È stata una serata interessante. Siamo andati poi a vedere la nascita dei conti Mach, che hanno così fatto nascere la dinastia in Val Venosta, e da cui poi è partito tutta la dinastia dei Trapa, tutt'oggi padroni del Castelcoira, e via dicendo. Insomma, tesi anche di storia dell'arte molto interessanti, con tesori dispersi in Alto Adige, per arrivare alla matematica. Ecco, la matematica, che è una delizia, ma anche a volte un dolore, perché è bellissima, ma in realtà non è così sempre ovvio che sia facile da trasmettere e facile anche da comprendere. Ci sono probabilmente dei meccanismi personali, ma anche nella trasmissione, nella didattica e anche forse in una struttura scolastica che va un attimo cambiata, aggiornata. E quindi siamo molto contenti che Silver Cappello abbia accettato di venire a presentare il proprio lavoro. Siamo anche particolarmente contenti di avere con noi questa sera Leonardo Poletti, che è non solo insegnante qui al liceo di Bolzano, ma anche ricercatore e collaboratore all'Università di Trento, e poi Barbara Caprara, che è ricercatrice alla LUB di Bolzano. Ecco, sono il padrino e la madrina di Silver, perché abbiamo scelto questa formula. Ogni nostro laureato verrà accompagnato nella sua, diciamo, esposizione da due persone competenti nella materia che lo ha impegnato nella ricerca e che è il suo destino probabilmente futuro. Allora facciamo anche un in bocca al lupo a Silver e vi ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie. E saluto anche la professoressa Maria Letizia Vettotti, che è con noi questa sera e che ci ha aiutato l'anno scorso a partire con un progetto sempre legato alla matematica. Grazie. Buonasera a tutti, mi sentite fino laggiù, credo, quindi non serve il microfono. Te lo devo purtroppo chiedere, sì. L'ufficio? Perché sì. Okay. Perché inganna qui l'acustica. Ok, allora. Ok, sente meglio? Ecco, allora, non mi ripresento, comunque dopo la laurea vorrei dire ho iniziato a lavorare a scuola, e laurea del 2012, mi sono laureato il 24 luglio 2012, dopodiché mi sono iniziato a lavorare a scuola come insegnante di scuola primaria, perché mi sono laureato in scienze della formazione primaria, e dopo ho iniziato un percorso di dottorato di ricerca, e adesso sono al secondo anno di dottorato di ricerca. questo per dirvi solo un attimo chi sono. Avevo iniziato questo lavoro sull'apprendimento in matematica nel 2010, che si è concluso appunto con la tesi di laurea nel 2012, e perché sappiamo che la matematica appunto è una materia molto, molto complicata, ci sono stati tanti interventi, ma ancora oggi ci sono grosse difficoltà in questa disciplina. L'idea di lavorare in questo ambito, diciamo, di lavorare sulla matematica, nasce da lontano, quando ancora ero alle scuole superiori, diciamo al liceo artistico, e nelle prime classi notavo di essere uno dei pochi che apprezzava questa disciplina, e mentre il resto della classe non mostrava particolare interesse verso la matematica. Quando poi siamo arrivati verso la quarta e la quinta, eravamo rimasti in tre ad apprezzare la disciplina, tutti gli altri erano completamente disinteressati, una completa totale indifferenza verso questa materia, totale indifferenza rispetto a quello che diceva l'insegnante. Quindi quando ho avuto l'occasione di lavorarci, cioè per la mia tesi di laurea, ho proprio voluto dare risposta a dei dubbi che avevo e capire se quello che avevo osservato era frutto del caso o se invece rispecchiava un fenomeno molto forte e presente, e questo infatti è quello che succede. Allora, partiamo da qui dicendo che le ricerche nazionali e internazionali in matematica mostrano come ci siano grosse difficoltà. Le più famose sono l'indagine TIMSS, che analizza il livello di scolarità del quarto anno di scolarità e l'ottavo anno di scolarità, e quindi il quarto anno corrisponde alla nostra quarta classe di scuola primaria, mentre l'ottavo anno di scolarità corrisponde alla nostra terza media o scuola secondaria di primo grado. E nel 2003-2007, adesso vi riporto i dati precedenti al periodo in cui ho iniziato la tesi di laurea, si evidenzia insomma che dall'indagine TIMSS non funziona? Sì, funziona? Che dall'indagine TIMSS ci sia un livello delle competenze matematica italiano intorno alla media, diciamo, nel caso della scuola primaria, vi riporto il dato concreto, l'Italia si colloca al 15° posto, per quanto riguarda la terza media raggiunge la 22° posizione. E se poi andiamo a vedere l'indagine OCSE PISA dello stesso anno, che analizza il livello matematico in circa 40 paesi, e vediamo come sui quindicenni, vediamo come comunque questo trend non va migliorando negli anni, insomma. Se poi andiamo ad analizzare dati più recenti, comunque ricerche più recenti, vediamo come l'indagine TIMSS riporta, e vi riporto il dato corretto, riporta nel 2007 l'Italia ad occupare la 16° posizione, che è poco al di sopra della media per quanto riguarda la scuola primaria, e la 19° posizione per quanto riguarda la scuola media. E prendendo i dati dell'Invalsi, che è l'Istituto Nazionale della Valutazione del Sistema Scolastico, e vediamo come ci sia nella tabella che rappresenta, diciamo, la percentuale di risposte corrette date nelle diverse classi indagate, e una supremazia nella scuola primaria e un calo poi grosso negli altri ordini scolastici, dove il 60% e il 68% rispettivamente nella seconda e quinta classe di scuola primaria danno risposte corrette nei quesiti matematici, poi dopo c'è un calo negli altri due ordini scolastici. E tuttavia bisogna considerare che le difficoltà che uno studente vive nel proprio apprendimento della matematica hanno ricadute dirette in quella che è la relazione che ciascuno di noi, anche quando siamo stati studenti, è andato ad instaurare con la disciplina di studio. Quindi non si può parlare solo di quella che vi sto mostrando adesso, cioè la dimensione cognitiva, ma bisogna dare spazio anche a un altro tipo di dimensione, che è quella emotiva, e considerare il fatto che la dimensione emotiva gioca un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento, influisce fortemente il processo di apprendimento quando anche è richiesta una competenza. Quindi la ricerca ha dimostrato che ci sono queste due dimensioni e sono molto importanti, ma non bisogna tenerle contrapposte, ma bisogna invece andare a cercare un loro punto di contatto. Infatti, se pensiamo, il modello di mente è cambiato nel corso degli anni e non è più visto come una contrapposizione tra il cognitivo e l'emotivo, ma è proprio visto come un punto a favore il fatto che ci sia una relazione forte tra i due ordini, tra i due aspetti, affinché emozioni e decisioni possano dare un valore aggiunto alla persona. Il progetto di ricerca. Le principali domande di ricerca dalle quali è partito l'intero lavoro sono quelle che vedete. Mi sono chiesto se il gradimento degli studenti verso discipline scolastiche peggiorasse nel corso degli anni di studio. Chiaramente il discorso della matematica va contestualizzato, va collocato all'interno delle altre discipline scolastiche per capire come si comporta la matematica, e quindi la prima domanda di ricerca è un po' più generale e coinvolge tutte le altre discipline scolastiche. Il rapporto emozionale tra lo studente e la matematica peggiora dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, quindi qui entriamo proprio nel merito della disciplina e della ricerca. Nella scuola secondaria di secondo grado la matematica è la disciplina meno apprezzata dagli studenti? E l'ultima principale domanda di ricerca: vi è una corrispondenza tra la relazione che lo studente instaura con la matematica e le metodologie didattiche attuate dall'insegnante? Ecco che allora possiamo vedere come, per dare risposta a queste domande, sia stato realizzato uno studio trasversale, diciamo che è stato realizzato alla fine dell'anno scolastico 2010-2011, e che ha coinvolto i tre ordini scolastici, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, quindi scuola primaria, scuola media e scuola superiore coinvolti in questa indagine, e sono state coinvolte tre scuole per ogni ordine scolastico. Allora, quindi tre scuole primarie, tre scuole secondarie di primo grado e tre di secondo grado, ripeto perché comunque è importante avere ben chiaro il percorso della ricerca, e per ogni ordine scolastico, per ogni scuola sono state coinvolte due classi, e cioè la terza e la quinta classe di scuola primaria, la prima e la terza classe di scuola secondaria di primo grado e la seconda e la quarta classe di scuola secondaria di secondo grado. Il totale delle classi che hanno partecipato all'indagine sono state 23 di scuola primaria, 20 di scuola primaria, 23 di scuola secondaria di primo grado e 23 di scuola secondaria di secondo grado. L'idea iniziale era quella di coinvolgere tutte le scuole di lingua italiana di Bolzano, però ho richiesto l'adesione a tutte le scuole e chiaramente ho dovuto accettare e ringraziare, diciamo, i dirigenti che mi hanno permesso di portare avanti questa ricerca. Quindi il totale delle persone che hanno partecipato a questa indagine, lo vedete proiettato, sono 1164 studenti, e oltre agli studenti sono stati coinvolti anche 48 insegnanti di matematica che insegnavano nei tre ordini scolastici, che danno quindi un totale di 1212 soggetti all'interno della ricerca. Ah beh, una precisazione, chiaramente lo studio trasversale è una fotografia di un momento, quindi alla fine dell'anno scolastico 2010-2011 è stata fatta questa, diciamo, fotografia di qual era la situazione in quel momento lì. Sarebbe stato molto più interessante e molto più utile fare uno studio longitudinale, cioè prendere una terza elementare e analizzarla fino a quando gli studenti di quella terza elementare non arrivassero a fare la quarta superiore, però in due anni coprire 10 anni di ricerca sarebbe stato un po' difficile, quindi mi sono dovuto accontentare di uno studio trasversale non longitudinale. E gli strumenti che sono stati utilizzati in questa indagine sono dei questionari rivolti appunto agli studenti di scuola primaria, media e superiori, e un questionario rivolto agli insegnanti di matematica. E il questionario sostanzialmente era diviso in due parti, per alcune domande era adattato all'età chiaramente, e in una prima parte si andava a capire come si comportava la matematica all'interno del contesto complessivo, diciamo, all'interno del confronto con le altre discipline scolastiche, per avere un termine di paragone, e nella seconda parte del questionario si è andati a focalizzare proprio sulla matematica, quindi sull'apprendimento della matematica, sulla relazione, sul rapporto emozionale che gli studenti instaurano con questa disciplina. Quando parlo di rapporto emozionale intendo dire tutto il vissuto, diciamo, emotivo e tutto quello che è stata l'esperienza dello studente che è costruito con una disciplina scolastica, in questo caso con la matematica. Passiamo a parlare dei principali risultati, così riusciamo a non andare troppo fuori con i tempi. E questo grafico che vedete deriva dalla domanda in cui è stato chiesto agli studenti di esprimere un loro valore da 0 a 10 rispetto a quanto gradissero queste diverse discipline scolastiche. voi potete vedere come già a colpo d'occhio, diciamo, sotto vedete le classi dalla terza primaria alla terza secondaria di primo grado, vedete come ci sia un calo, diciamo, generale. Anche la, in quel colore giallo vedete educazione motoria, anche educazione motoria, che comunque sappiamo essere la più apprezzata nella scuola, subisce una flessione. E se andiamo a vedere altre, altre discipline scolastiche che hanno una tendenza interessanti, credo che si possa parlare delle due lingue, quindi inglese e tedesco. Le vedete, ve le indico qua con la freccia, partono entrambe da un 8,1 in terza classe di scuola primaria, e poi si differenziano, quindi tedesco crolla drasticamente, e credo che questo sia abbastanza importante per il, la regione in cui siamo, e mentre inglese rimane su un livello abbastanza elevato, nonostante subisca anch'essa una flessione, ma comunque rimane su un valore buono. In tutto questo il nero è il colore che ho assegnato alla matematica, perché spicca un po' di più magari degli altri, e parte la matematica da un valore molto alto in terza classe di scuola primaria, da un 9 che gli studenti hanno dato, e scende fino a un 5,8, quindi una flessione abbastanza interessante, ma anche preoccupante. E andando avanti, quindi scuola secondaria di secondo grado, scuole superiori, la tendenza non cambia. In questo caso, nel questionario, quello che dicevo prima, adattato all'età e all'ordine scolastico, non è stata richiesta proprio non sono state richieste proprio le valutazioni sulle singole discipline, ma sulle aree, quindi area umanistica, materie umanistiche, materie scientifiche, materie linguistiche, e si è mantenuta distinta solo l'educazione motoria, per capire come si comportasse rispetto alle altre. Qui vedete il grafico in alto, ci mostra come dalla seconda alla quarta ci sia una flessione generale, tranne che nelle materie scientifiche. Se però andiamo a vedere il dato completo, quindi nell'ordine scolastico, senza differenziare dalla seconda alla quarta, abbiamo che comunque le materie scientifiche hanno un 5,6, e comunque tutte e tre le aree, diciamo, hanno un valore abbastanza basso, raggiungono quasi a malapena la sufficienza, diciamo, tranne educazione motoria, che rimane su un 7,2, sempre più basso rispetto a quanto era emerso negli ordini precedenti. E allora, un'altra domanda del questionario era stato chiesto agli studenti di indicare una disciplina che volevano eliminare, che avrebbero voluto, se avessero potuto farlo, eliminare, e invece una disciplina che avrebbero voluto, in cui avrebbero voluto fare più ore di lezione, quindi la disciplina preferita, diciamo. Se guardiamo il grafico alla vostra sinistra, quindi discipline da eliminare, tolte le intanto vi spiego un attimo come si legge il grafico, perché mi rendo conto che sia un po' carico di aspetti, insomma. Allora, per ogni disciplina indicata ci sono i colori che corrispondono agli ordini scolastici, quindi partendo, prendiamo ad esempio educazione musicale, partendo dalla linea più bassa, diciamo la linea più bassa corrisponde alla terza classe di scuola primaria, si sale su. Con ogni linea corrisponde la seconda linea alla quinta classe di scuola primaria, la terza linea, o il colore comunque potete anche guardare, alla prima media, l'altra linea terza media, e salendo seconda superiore, quarta superiore. Tra le varie tendenze interessanti, diciamo risultati interessanti, io credo che tutti notiamo l'inglese in questo grafico, l'inglese che è la disciplina meno apprezzata nella terza classe di scuola primaria. Oltre il 40% degli studenti di terza classe di scuola primaria hanno indicato l'inglese come materia da eliminare. Poi però abbiamo un valore ancora abbastanza alto in quinta, e poi negli altri due ordini scolastici comunque si torna a dei valori normalissimi, insomma sotto il 10%, intorno al 5%. Quindi magari questo possiamo ipotizzarlo noi per una comprensione dell'importanza che ha l'inglese per la vita, diciamo. Se guardiamo un'altra tendenza interessante, un'altra disciplina che ha portato dati interessanti, è il tedesco. Il tedesco in ogni ordine scolastico, in ogni classe coinvolta, riceve consensi negativi, quindi siamo sempre intorno al 20-25% in ogni classe coinvolta, ma il tedesco è stato proprio indicato molto dagli studenti e risulta la disciplina meno apprezzata in tutti gli ordini scolastici, diciamo. E se andiamo a vedere la matematica, sempre in questa parte, diciamo, del grafico, vediamo come dal primo momento della rilevazione, quindi dalla terza classe di scuola primaria, ci sia un aumento fino al, vedete qui all'ultimo, l'ultima classe coinvolta, che è la quarta classe di scuola secondaria di secondo grado, quindi le superiori, dalla terza classe ci sia un aumento dei soggetti, degli studenti che vorrebbero eliminare questa disciplina. Queste sono secondo me le tendenze più interessanti in questo grafico. Se ci spostiamo alla vostra destra, possiamo vedere quello che spicca, diciamo, educazione motoria, disciplina preferita in ogni ordine scolastico. E attenzione che ho detto ordine scolastico, non ho detto classe, perché in terza classe di scuola primaria non è l'educazione motoria ad essere la preferita, vedete qui, ma è la matematica. Cosa succede dopo però? Dopo la terza classe di scuola primaria il dato cala drasticamente e raggiunge un livello molto basso in conclusione della ricerca, diciamo, in conclusione della rilevazione, quindi in quarta superiore. Tedesco non ha ricevuto grandissimi consensi se non in quarta classe di scuola secondaria di secondo grado, e inglese, come potete vedere, crescono le indicazioni degli studenti come disciplina apprezzata, diciamo. Ecco, quello che è interessante appunto che vorrei far notare è che in terza classe di scuola primaria la matematica è la disciplina più apprezzata, anche superando anche l'educazione motoria, che nel complesso in tutti gli ordini scolastici è quella preferita. Poi però subisce un calo e arriva ad un valore molto, molto basso alla fine della rilevazione. Emozioni e matematica. Una domanda del questionario, questa forse è una delle più interessanti, è stato richiesto agli studenti qui di associare le emozioni che provavano verso la matematica, e su un elenco di 9 emozioni tra positive e negative. Poi cosa ho fatto? Ricevuti i dati, ho diviso le emozioni positive da quelle negative, e questo è il dato è il grafico che è emerso. Allora, in blu abbiamo le emozioni negative associate alla matematica, in rosso abbiamo le emozioni positive. Come potete vedere, credo che sia chiarissimo, dalla terza classe di scuola primaria abbiamo un 80% di emozioni positive associate alla disciplina, alla matematica, contro un 20%. Andando avanti con le classi e con gli ordini scolastici, questo valore cambia drasticamente, addirittura subisce un'inversione dalla prima alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, quindi alle medie. Tuttavia dopo non è che il dato torni positivo, diciamo, quindi si mantiene negativamente stabile anche nella scuola secondaria di secondo grado. Quello è, credo che siano i due aspetti principali. Tra le varie emozioni avevo lasciato la possibilità allo studente di indicare l'ansia, e l'ansia è un'emozione particolarmente importante e da controllare, e quello che è emerso dall'indagine è che già nella scuola primaria circa il 18% degli studenti associano l'ansia alla matematica. Ma poi, come vedete, il dato cresce fino a 42,5% nella terza media, 40,4% nella seconda superiore, e poi rimane su un 33,1% in quarta superiore. Quindi, se noi pensiamo che l'Ox comunque aveva stabilito già anni fa che in Italia il livello di ansietà negli studenti era molto elevato, da questo dato ci fa capire che comunque le cose non siano molto cambiate, e comunque ci fa capire che ci sono interessanti differenze da un ordine scolastico all'altro. Saltando ancora avanti con il ragionamento, arriviamo a questi due grafici che derivano da due domande poste agli studenti. La prima domanda era, loro dovevano rispondere e concludere questa frase: io e la matematica siamo come? E loro dovevano concluderla. E nella seconda domanda, quindi fa riferimento al secondo grafico, per me la matematica è, cioè la matematica per me è, puntini puntini, e loro dovevano concludere la frase. Anche in quel caso lì le loro risposte si potevano, la maggior parte delle loro risposte, non tutte, infatti non tutti i valori raggiungono il 100%, la maggior parte delle loro risposte si potevano dividere in positive e negative. E anche in questo caso, come vedete, diciamo intanto che una tendenza conferma l'altra. E poi, come vedete, i blu sono sempre i negativi, i rossi sono sempre i positivi. Come il grafico di prima, abbiamo un crollo dei valori positivi, delle risposte positive date dagli studenti, quindi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado crollano le relazioni positive, quelle che gli studenti hanno riconosciuto come relazioni positive, e aumentano per contro quelle che gli studenti riconoscono come relazioni negative. E anche in questo caso vi faccio notare il cambio, il passaggio avviene dalla prima alla terza classe di scuola secondaria e di primo grado, sì, quindi nella scuola media, dalla prima alla terza media. In entrambe le tendenze, anche se sono leggermente diverse come percentuali, ma comunque anche nel secondo grafico il cambio avviene nella scuola media, dalla prima alla terza. Adesso vorrei farvi un po' sorridere, un momento un po' più leggero, sorridere ma anche riflettere, perché queste sono state alcune delle principali e più interessanti risposte che hanno dato gli studenti. Come lo zucchero per uno che soffre di diabete, quindi io e la matematica siamo come lo zucchero per uno che soffre di diabete, siamo come un ebreo in campo di concentramento, quindi comunque molto forte come risposta. Come Mourinho e la stampa, una risposta un po' più simpatica che comunque mette in contrapposizione due elementi, come Materazzi e Zidane per chi ricorda la famosa testata. E poi vi vorrei, come un muto che cerca di parlare, quindi anche diciamo risposte originali però che rappresentano un vissuto abbastanza difficile. E poi vi vorrei fare notare queste due risposte, poi potete leggere quelle che volete intanto, ma due rette parallele che non si incontrano mai e meno due alla seconda sempre positivi sono due risposte che in sé hanno un aspetto matematico e che gli studenti hanno utilizzato per descrivere negativamente il loro rapporto con la matematica. Questo secondo me è veramente interessante, cioè quindi lo studente ha la capacità di riflettere sul concetto matematico, di associarlo, di fare quindi una similitudine con la propria situazione e sceglie di utilizzare un concetto matematico per descrivere questa situazione. Secondo me questo è stato un aspetto molto, molto carino, insomma. Scusi, ma è certo che meno due alla seconda sempre positivi si era interpretare in chiave negativa? No, meno due alla seconda sempre positivi è in chiave positiva. Volevo farvi notare solo che in entrambe le situazioni, nel caso del positivo e nel caso del negativo, sono stati usati degli elementi matematici. No, grazie per la precisazione. Ecco, andiamo avanti alla seconda frase che gli studenti dovevano completare, e la matematica per me è utile solo per la spesa. È la cima e io cerco di raggiungerla, è il pane degli intellettuali, chiaramente qui ho messo risposte positive e negative, è la vita, è come un assassino, è ansia, ho sempre paura di sbagliare qualcosa davanti a tutti, la matematica per me è una materia molto... ah no, questa ve la leggo dopo, è una materia che prima o poi riuscirò a capire, un'altra vediamo, cioè si dà delle speranze sì, che prima o poi non è molto positivo diciamo forse, ecco, e vi vorrei far notare, allora, è una materia importante ma devi essere portato ed io non lo sono, e anche la matematica non si può imparare, se sei bravo ci riesci, se no no. E la matematica per me è una materia molto importante che servirà in futuro, ma purtroppo per me non è così. Quindi queste tre risposte e anche un'altra che è una bellissima materia, molto intelligente, tutto sommato utile, il problema è che io non riesco ad arrivarci alla matematica, rappresentano intanto penso comunque un vissuto di frustrazioni e fallimenti da parte del soggetto, ma soprattutto anche un pensiero molto radicato che per andare bene in matematica sia necessario essere portati. Questo lo inculchiamo noi agli studenti, alla società stessa che inculca questo messaggio agli studenti: sei bravo in matematica allora sei un genio, ma fai matematica, madonna che difficile, però magari lui sta benissimo, non ha nessuna difficoltà. Quindi è proprio la società e l'opinione generale che porta queste, e anche nella scuola assolutamente, che porta queste frasi che comunque hanno un peso veramente molto grande a scuola e nel vissuto degli studenti. Che quindi, se vogliamo fare un passetto in più, lo studente che inizia a perdere il filo, diciamo, che inizia ad accumulare qualche lacuna con la matematica, percepirà se stesso come impossibilitato a poi recuperare o a raggiungere, o comunque cercherà giustificazione nel fatto di dire io non sono uno di quelli portati. Credo che questi aspetti siano abbastanza importanti sia da considerare nella scuola, ma anche come persone stare attenti a quello che diciamo, proprio per non far passare dei messaggi che per gli studenti sono veramente pesanti. Le scelte didattiche, come vi ho detto prima, l'idea principale del lavoro era quella di capire quale fosse la portata del fenomeno, quindi se ci fosse un allontanamento degli studenti dalla matematica nel corso degli anni scolastici, ma un altro tentativo era quello di cercare di capire se la didattica attuata dagli insegnanti potesse essere un punto veramente importante nella relazione che gli studenti instaurano con le discipline scolastiche. E qui è stato chiesto, questo grafico fa riferimento alla domanda in cui è stato chiesto agli studenti solo di scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi scuola media e scuola superiore, quali fossero le principali metodologie didattiche utilizzate dai loro docenti. Cerco di spiegarvi bene, perché dopo capire il grafico se no non ci si riesce, se non abbiamo degli aspetti di base. Allora, le possibilità che sono state offerte agli studenti sono, come vedete sotto, lezione frontale, laboratorio, gioco, dibattiti in classe, lavoro individuale, osservazione, lavoro di gruppo, e poi c'è una parte altro che ho messo, in cui ho messo tutto quello che risultava basso come percentuale. E le classi con i colori, diciamo, verdi abbiamo la prima e terza media, e con il blu abbiamo la seconda e la quarta secondaria di primo grado, quindi dal chiaro allo scuro, diciamo. Allora, guardando intanto il grafico, spicca credo subito la lezione frontale, e spicca il fatto che se guardiamo la lezione frontale vediamo che dalla prima media alla quarta classe di scuola secondaria di secondo grado, quindi alla scuola superiore, gli studenti indichino che il loro docente di matematica utilizzi prevalentemente la lezione di tipo frontale, la lezione di tipo frontale, arrivando in quarta quasi al 50% delle indicazioni degli studenti. Se guardiamo il secondo valore espresso in quarta, è il lavoro individuale, che comunque sappiamo non essere una delle metodologie didattiche che crea coinvolgimento, motivazione, interesse, entusiasmo. Quindi abbiamo e questo dato lo vediamo ancora meglio se guardiamo i due ordini scolastici divisi, diciamo. Nella scuola secondaria di primo grado le prime due, diciamo intanto che la lezione frontale è prima in entrambi i casi, col 22% nella scuola media, col 43,7%, addirittura 43,7% delle indicazioni nella scuola secondaria di secondo grado. Se guardiamo la scuola media, abbiamo come seconda metodologia indicata dagli studenti il lavoro di gruppo col 16% e lì vicino i dibattiti in classe e il lavoro individuale e le osservazioni, quindi un risultato abbastanza eterogeneo, quindi che coinvolge molte metodologie didattiche. Se invece andiamo a vedere nella scuola secondaria di secondo grado, dopo il 43,7% della lezione frontale abbiamo il 21% di lavoro individuale come indicazioni. Quindi abbiamo un dato molto forte, intorno al 60% delle indicazioni, che fanno riferimento a delle metodologie che non sono coinvolgenti, che portano lo studente in una, non dico passiva, in una situazione passiva, perché comunque il lavoro individuale lo studente è chiamato a lavorare, ma comunque non c'è motivazione, entusiasmo, interesse e proprio il coinvolgimento. E poi vediamo come non ci sia un'eterogeneità qui, perché l'osservazione si stacca e arriva all'11,2%. Se andiamo a vedere quello che hanno risposto gli insegnanti a questa domanda, che credo che sia interessante come prova, vediamo, in questo caso sono coinvolti anche quelli di scuola primaria perché potevano rispondere, a differenza dei bambini che la domanda sarebbe stata troppo difficile per loro, e vedete subito che con l'arancione, diciamo, la scuola primaria, col giallo arancione, nella scuola primaria vedete un'eterogeneità di metodologie didattiche, lo si vede a colpo d'occhio. Quindi abbiamo la lezione frontale che è stata indicata tanto quanto il gioco, e poi lì vicino abbiamo i dibattiti in classe, il lavoro individuale, il lavoro di gruppo, poco sotto l'osservazione, e un poco più in basso, diciamo sotto il 10%, il laboratorio. E se invece andiamo a vedere gli altri due ordini scolastici, vediamo che i due picchi, diciamo, nella scuola media sono lezione frontale e lavori di gruppo, proprio come avevano indicato gli studenti. Le prime due erano lezione frontale, faccio un passo indietro, lezione frontale, scuola media, e lavori di gruppo, indicati dagli studenti, indicati dagli insegnanti. Gli studenti hanno indicato poi lezione frontale e lavoro individuale nella scuola superiore, e gli insegnanti hanno confermato questa tendenza, lezione frontale come prima e lavoro individuale come seconda metodologia didattica. Quindi questo ci fa proprio capire un uso eterogeneo delle metodologie didattiche nella scuola primaria e un avvicinarsi ad una didattica frontale nel corso degli anni di studio. Il gioco nella didattica della matematica. È stato chiesto direttamente agli studenti quanto giocassero in classe, quanto ritenessero di giocare in classe con la matematica, e vedete come dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, alle superiori, ci sia un calo abbastanza interessante, da un 7,5 a un 3,2, con comunque il passaggio principale dalla quinta classe di scuola primaria alla prima classe di scuola media, dal passaggio da 6,7 a un 3,7. Se guardiamo, quindi abbiamo questo calo, e questa tendenza viene confermata dagli insegnanti, da un 8,8 a un 5,2. I valori si mantengono un po' più alti per gli insegnanti, ma la differenza di punti è più o meno la medesima. Se guardiamo la scuola primaria abbiamo un 7, diciamo, e nella scuola superiore per gli studenti abbiamo 3, quindi sono 4 punti. Se guardiamo gli insegnanti abbiamo più circa 9 e 5, quindi sono sempre 4 punti di differenza, sebbene per gli insegnanti i valori siano un po' più alti in tutti gli ordini scolastici. Tuttavia, e qui vi faccio farvi proprio riflettere su questo aspetto, gli insegnanti, perché qui chiaramente la prima obiezione che viene fatta dagli insegnanti di scuola superiore è che con gli oggetti matematici della scuola secondaria, che sia superiore o medie, sia molto più difficile giocare che con gli oggetti matematici che si devono affrontare nella scuola primaria. Ma la domanda posta agli insegnanti non era quanto giocassero in classe con la matematica, bensì, secondo lei, quanto è importante il gioco nella didattica della matematica. Cioè, non ho chiesto in quale misura loro giocassero, ma in quale misura loro la ritenessero importante. Quindi questo dato cosa ci dice? Ci dice che anche se avessero occasione di giocare con gli oggetti matematici, con le metodologie didattiche nella scuola secondaria di primo e secondo grado, non c'è non si crede insomma che questo aspetto, il gioco, possa essere utile a livello didattico. Qui è stato chiesto agli insegnanti, come agli studenti, di definire il loro rapporto con la disciplina, perché comunque anche gli insegnanti hanno un loro rapporto emozionale con la disciplina che insegnano. E qui, secondo me, queste sono le risposte più interessanti, perché evidenziano in alcuni casi un rapporto conflittuale, perché un insegnante risponde odio amore, oppure se è facile amore, se è difficile odio. In alcuni casi l'insegnante esprime la propria relazione con la disciplina come un semplice lavoro, quindi è il mio mestiere. Oppure non come un insegnamento della matematica è stata un'assegnazione d'ufficio per motivi di organizzazione scolastica, inizialmente accolta con molte riserve, avendo sottoscritta una formazione umanistica, e posso ora dire che dopo 3 anni di insegnamento di tale disciplina che apprezzo la linearità, l'applicazione, però comunque viene vista e è stata definita anche da loro come anche un lavoro, semplicemente un lavoro. E in altri casi credo sia interessante vedere come anche l'insegnante che insegna matematica abbia vissuto un'evoluzione nel rapporto con questa disciplina. Una insegnante scrive: è stata una continua evoluzione subita nella fase adolescenziale, amata e considerata parte della mia vita in fase adulta. Un'altra scrive: vecchie amiche ritrovate, o meglio nemiche che hanno fatto pace. E un altro insegnante scrive: da studente l'ho subito e mi sono stufato, avevo un sentimento emotivo negativo, poi c'è stato un continuo evolversi, soprattutto dopo l'incontro con i maestri della didattica della disciplina, D'Amore, Sbaragli, Zan, Lucangeli. Quindi, se inizialmente volevo riscattare la materia dalle parti noiose, ripetitive, semplicemente eliminandole, dopo ho colto gli aspetti più piacevoli ed estetici che adesso mi divertono. Sono un lettore entusiasta ed un creatore di attività laboratoriali per gli alunni. La professione del suo insegnamento mi diverte. Quindi, quello che è importante capire è che anche l'insegnante stesso, che è chiamato a coinvolgere gli studenti nell'apprendimento della matematica, ha un suo vissuto che può essere conflittuale o comunque abbastanza complesso da tenere in considerazione. Quindi, cercando di arrivare in conclusione del discorso, possiamo dire che dalla ricerca dei dati emersi, diciamo, si può evincere un forte legame tra quello che è l'apprendimento in matematica e quella che è la formazione dei docenti. Perché dico la formazione dei docenti? Perché se abbiamo visto dei dati, se ci ripensiamo un attimo, nella scuola primaria bene o male le cose funzionavano, mentre nella scuola secondaria, che sia di primo o di secondo grado, le cose iniziavano a presentare determinate difficoltà. Quindi, essendo la formazione dei docenti diversa per la scuola primaria e per la scuola secondaria di secondo grado, possiamo considerare che quella sia una variabile importante che influenza ed influisce nell'apprendimento in matematica. Tuttavia, sarebbe abbastanza superficiale considerare la formazione dei docenti come la sola variabile importante e da tenere sotto controllo, perché ce ne sono moltissime altre che dobbiamo citare. C'è ad esempio il fatto, Pier Giorgio Di Fredi, un matematico, lo dice, che le nuove generazioni, nella società in cui sono oggi, hanno più difficoltà a concentrarsi, e quindi la matematica, richiedendo una concentrazione abbastanza elevata, porta gli studenti che vivono in questa società abbastanza dinamica a non riuscire a seguire la matematica in maniera corretta. Un'altra variabile abbastanza importante da citare, abbastanza molto importante, è l'adolescenza. L'adolescenza sappiamo essere un momento critico, un momento difficile per tutti gli studenti, e quindi anche i dati emersi possono risentire del fatto che siano stati richieste la risposta anche a persone che erano proprio in questa fase, a degli adolescenti. Un altro aspetto è l'epistemologia disciplinare, che nel caso dell'epistemologia matematica è particolarmente curiosa, nel senso che da una parte la matematica è sequenziale. Se noi arriviamo nella scuola secondaria di secondo grado convinti di poter recuperare tutte le lacune che abbiamo lasciato negli ordini precedenti, sarà molto molto difficile. Lì poi sta anche al docente capire e interessarsi di questo, cercare di far avvicinare il soggetto alla matematica, o cercare di far riallacciare il rapporto, perché essendo sequenziale non posso fare un'espressione se non conosco le quattro operazioni di base, diciamo, per fare un esempio. E d'altra parte la matematica, a differenza di molte altre discipline, passa da un grado di praticità molto forte nella scuola primaria a un grado di astrazione molto elevato man mano che si aumentano gli anni di scolarizzazione. Quindi anche questo è un aspetto da tenere sotto controllo, è proprio un aspetto epistemologico. Se, per riprendere Bruno D'Amore e gli ostacoli di cui lui parla proprio nella scuola, lo zero, il concetto dello zero, è un concetto che è stato difficile da acquisire anche per la società. Arrivare a concettualizzare il concetto, lo zero come numero, è stato proprio, sono passati anni per arrivare a trovare un accordo sullo zero, e quindi noi poi ci aspettiamo che lo studente riesca ad acquisire determinati concetti, quando sappiamo che nella storia della matematica ci sono state grandissime difficoltà relative a questi concetti, diciamo. Un'ultima variabile abbastanza importante da considerare è il passaggio da un ciclo all'altro. I passaggi dei cicli hanno e creano continuamente difficoltà negli studenti e creano delle rotture. Ecco, quindi questo, diciamo, è il panorama completo, ma ci sono tantissime altre variabili, chiaramente. E però adesso noi dobbiamo fare un passo in più e provare a cercare di individuare quali sono quelle variabili su cui è possibile intervenire, cioè quali sono le variabili che io posso modificare e quindi possono aiutarmi a migliorare la relazione che si instaura tra lo studente e la disciplina. Se noi partiamo dall'ultima che ho citato, quindi il passaggio da un ciclo all'altro, sappiamo quante riforme ci siano state nel corso degli anni e quanti pochi cambiamenti ci siano stati però sul piano concreto in questo ambito, quindi nell'apprendimento della matematica, ma soprattutto nella relazione affettiva con la matematica. Quindi il passaggio da un ciclo all'altro è una variabile su cui difficilmente possiamo intervenire, quindi non possiamo considerarla in questo schema. L'epistemologia disciplinare, se noi prendiamo ad esempio Di Martino, che è un altro matematico, lui dice che, chiaramente lo condividiamo tutti, che l'epistemologia disciplinare è quella. Noi non possiamo sacrificare i concetti o i contenuti della matematica per far piacere la matematica agli studenti. Vorrebbe dire togliere tutto quello che è difficile o può essere noioso, solo per arrivare all'obiettivo di farla piacere. Però sarebbe un delitto, diciamo, non sarebbe corretto. L'epistemologia disciplinare della matematica è quella, con i suoi statuti, con i suoi contenuti, e noi dobbiamo trovare il modo migliore per farla apprendere agli studenti. Quindi anche l'epistemologia disciplinare non è una variabile su cui possiamo intervenire. L'adolescenza, cosa possiamo fare sull'adolescenza? Non è forse un periodo critico a cui tutti siamo chiamati ad affrontare, e quindi non possiamo proprio intervenire, non possiamo proprio modificarlo, né come insegnanti ma neanche come genitori, proprio come non si può modificare il fatto che l'adolescenza crei un cambiamento nella persona. L'abbiamo vissuto tutti e lo vivranno tutte le generazioni future, e questo discorso si attacca alla prossima, perché le nuove generazioni vivono in una società, e noi allora per intervenire su questa variabile dovremmo cambiare la società. Riprendendo Bauman ad esempio, lui parla di società liquida, una società dove non si parla più neanche dell'attesa, e quindi è una società così istantanea, così rapida, che non è difficile da modificare. Non possiamo intervenire e modificare la società per favorire una relazione migliore tra gli studenti e la matematica. Quindi cosa rimane? Rimane che la variabile su cui è possibile veramente intervenire e modificare al fine di migliorare la relazione tra gli studenti e la disciplina e la matematica è proprio la formazione dei docenti. La formazione dei docenti, dai dati emersi ma anche dal panorama che abbiamo, corsi di scuola secondaria di secondo grado, perché? Perché carenti di aspetti di natura didattica. Questo non per colpa del docente in sé, ma per colpa ma a causa, diciamo, di un ciclo di formazione, di un percorso di formazione molto diverso dalla primaria, da quello che è per la scuola primaria a quello per la scuola secondaria. Il docente della scuola secondaria è chiamato a svolgere 5 anni di disciplina e adesso attualmente un solo anno di tirocinio formativo attivo. Quindi poi viene chiesto a questa persona di arrivare in una classe, trovarsi immerso nelle difficoltà e affrontare la propria disciplina nel migliore dei modi con un solo anno di competenze didattiche. Quindi la disciplina è sicuramente molto forte perché ci sono 5 anni di studi disciplinari, ma la didattica risulta carente. Lo stesso discorso comunque, se prendiamo la formazione, dobbiamo tenere in considerazione la scuola primaria, perché c'è il discorso opposto. Nella scuola primaria si valorizza molto l'aspetto didattico, ma si va a perdere un po' quella che è la competenza disciplinare. Quindi è da tenere molto in considerazione sia la formazione dei docenti di scuola primaria, ma ancora di più la formazione dei docenti di scuola secondaria. Io con questo, diciamo, ho concluso quello che è la parte della ricerca, ma vi vorrei dire quali sono stati gli sviluppi, diciamo, che sono stati dopo questa indagine, questa ricerca, che era per la mia tesi di laurea che si è conclusa nel 2012. Sono riuscito, e questa è una grandissima soddisfazione per me, a pubblicare parte, a divulgare, più che pubblicare, perché la cosa importante non è pubblicare, ma è divulgare e dare la possibilità agli altri insegnanti di conoscere i dati emersi e di cercare di lavorare conoscendo appunto quello che è emerso dall'indagine. E quindi sto facendo girare questa rivista, cioè ho avuto l'occasione di pubblicare questo articolo. E poi dal 2012 ho iniziato il dottorato di ricerca in pedagogia generale, didattica generale e pedagogia sociale, e sto portando avanti questa ricerca che si è ampliata su più fronti, nel senso ora sono al secondo anno di dottorato e si è appena conclusa la fase di rilevazione dei dati qui in provincia. La ricerca per il dottorato è più strutturata, è molto più complessa e sicuramente più ricca, e va a coinvolgere non più solo la disciplina matematica, ma va a coinvolgere tutte le discipline scolastiche e si vedranno poi quali sono i trend delle discipline che si mantengono stabili dalla scuola primaria alla scuola superiore, dando la possibilità anche agli insegnanti e agli studenti di parlare e di indicare, diciamo, tutte le altre discipline con cui hanno a che fare nella loro esperienza scolastica. E ci saranno inoltre ci sono stati dei focus group e ci saranno ancora nel prossimo anno scolastico dei focus group con gli insegnanti, cosa che è mancata nell'altra indagine, proprio per avere il contatto con l'insegnante, per raccogliere delle osservazioni di quelli che sono i protagonisti di questo processo. E poi il questionario appunto va a lavorare nell'ottica di cercare di capire proprio quali siano le motivazioni che stanno alla base delle indicazioni degli studenti. Cioè, io studente ho indicato che voglio eliminare una disciplina, ma qual è il motivo che sta alla base? Quindi in questa ricerca che vi ho presentato ho potuto solo ipotizzare che le metodologie didattiche fossero l'aspetto principale di tutto il lavoro, che influenzassero proprio la relazione affettiva, ma nell'indagine che sto svolgendo e che si concluderà il prossimo anno e con la conclusione del dottorato, lì si andrà proprio, e quello è un obiettivo, cercare le motivazioni che stanno alla base proprio per poter attuare un intervento. Le motivazioni che vengono richieste agli insegnanti e agli studenti in tutta la provincia di Bolzano, con un campione rappresentativo della provincia perché coinvolge scuole primarie, medie e superiori, italiane, tedesche e ladine. Quindi sono più di 30 istituti che hanno partecipato, e che adesso ormai manca una scuola che mi deve consegnare i dati, ma abbiamo concluso, diciamo, questa fase. E appunto si avranno poi questi dati che spero e penso possano portare un dato abbastanza importante su cui poi poter migliorare quindi questo aspetto, perché viene data la possibilità anche agli studenti e ai docenti di proporre delle soluzioni a questo, non solo di fermarsi alla causa, ma di proporre degli interventi e delle soluzioni. Quello che vi ho scritto sotto, ricerca presso la rete C8 per la valutazione, è una ricerca, non dico parallela perché non è corretto dirlo, perché è un altro tipo di ricerca, è una ricerca che sto svolgendo nella comunità delle giudicarie in Trentino su 5 istituti, che condivide l'oggetto della ricerca che porto avanti qui in provincia, però nasce dal basso. Quindi sono questi 5 istituti che lavorano in rete e che mi hanno chiesto di fare questa ricerca in tutta la popolazione di questa comunità delle giudicarie. E nascendo dal basso, vi assicuro che la situazione è molto più, il lavoro è molto più entusiasmante e tutto funziona veramente bene. Quando invece l'università o il ricercatore, diciamo, che chiede la partecipazione, è sempre un po' più difficile trovare il consenso. Questo purtroppo anche a causa delle tante richieste che ci sono nelle scuole, però succede, e qui comunque la cosa interessante è che c'è una condivisione dell'oggetto, lo stesso oggetto in due ricerche diverse, una di tipo magari uno studio trasversale, l'altro una che può essere definita come ricercazione, diciamo, perché si va reiterando finché non si arriva alla soluzione del problema. Ecco, vorrei chiudere, ultima slide, su questa frase che secondo me è significativa per tutto il lavoro che vi ho presentato, di un insegnante che dice: erano domande di sguardo e relazioni che questi ragazzi facevano ogni giorno a me, agli adulti, alla scuola, attraverso la forza di gesti che urlavano ascolto oltre le parole. Come coglierle e averne cura? Avevo una laurea in lettere classiche, mi avevano insegnato la bellezza dei versi di Leopardi e Lucrezio, la lucidità analitica del procedere sintattico, conoscevo gli inni orfici e Omero, i viaggi di Magellano, le guerre e gli armistizi, nulla per cogliere quei silenzi, quegli scomposti richiami, corpi e sguardi giungevano come narrazioni mute. Secondo me è una frase molto bella, che ci deve far riflettere, per spostarsi non solo sulla matematica, ma per capire che questo problema coinvolge tutte le discipline, con risultati diversi, comunque con dati diversi. Ecco, io vi ringrazio per il vostro ascolto e per la vostra attenzione. Grazie, poi se c'è qualche dubbio, ho lasciato qua il mio indirizzo email, quindi per qualsiasi cosa, dubbio o curiosità, semplicemente sono veramente disponibile e mi piacerebbe scambiare anche delle opinioni. Buonasera a tutti, io sono Barbara Caprara, lavoro per l'Università di Bolzano alla Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione di Bressanone come ricercatrice in didattica generale. Inizio, ancora prima di iniziarvi a dire due aspetti sulla tesi di Silver, mi scuso perché non avevo compreso bene i tempi, quindi ho un ultimo treno fra 35 minuti da prendere. Chiedo scusa se sembrerò maleducata, non sono così veramente. Di solito mi piace molto lo scambio, ma un'emergenza familiare mi ha impedito di scendere con la macchina. Scusate. Ok. Allora, due aspetti. Silver ha detto molto della sua tesi, io l'ho portata, non sono stata io la relatrice, solo la seconda relatrice, quindi ho letto la tesi già scritta, corretta, completata, e l'ho trovata molto interessante, anche se l'argomento non è assolutamente, o apparentemente non era assolutamente, il mio argomento di studio. Sono una di quegli studenti che non è mai andata bene in matematica, che ovviamente ha scelto uno studio umanistico, e quindi mi ritrovo completamente in tante osservazioni dei ragazzi intervistati. La tesi, vi consiglio di darci un'occhiata, ha il grande pregio dal mio punto di vista di aver messo a punto una serie di domande veramente ben riuscite. Molto spesso noi ci confrontiamo con gli studenti che cercano di raccogliere dati sul campo. Formulare bene le domande affinché chi risponde riesca a farti realmente capire che cosa sta pensando, che cosa prova in una determinata situazione, è un aspetto molto complesso. Uno poi si incarta nella formulazione delle domande e a livello metodologico i questionari non sempre sono efficaci. I questionari che ha proposto Silver hanno permesso sia agli studenti che agli insegnanti di raccontarsi in maniera molto interessante, andando proprio a cogliere parte della problematica rispetto all'argomento, che penso sia innegabile. Se anche qua andiamo per alzata di mano, probabilmente a parte gli insegnanti di matematica, in tanti ci siamo chiesti e fatti domande sull'utilità di dover imparare, perché ho preso questo brutto voto nonostante le espressioni abbia provato tutto il pomeriggio a farle. Penso che in generale, in qualsiasi platea noi ci muoviamo, questo sia un argomento scottante. L'aspetto oltre a quello metodologico che ci permette a noi che lavoriamo nell'ambito della didattica generale, ci permette di riflettere, è sicuramente la distinzione forte tra la formazione degli insegnanti di scuola primaria e quelli di scuola secondaria. Noi che ci occupiamo prevalentemente alla Facoltà di Scienze della Formazione degli insegnanti di scuola primaria, tendiamo, un po' perché le indicazioni che ci danno vanno in questa direzione, a ragionare moltissimo con i nostri futuri insegnanti su quelle che vengono chiamate le metodologie attive, a discapito sicuramente a volte dei contenuti che trasmettiamo. Quindi lavoriamo molto con gli studenti affinché imparino a svolgere correttamente i lavori di gruppo, affinché trovino delle situazioni didattiche che siano il più possibile, che diano un approccio il più possibile costruttivista al sapere. Lo sappiamo benissimo, lo diciamo sempre, il vaso vuoto che viene riempito con le nozioni non conduce alla conoscenza, questo lo sappiamo. La vera conoscenza è solo quando il bambino, il ragazzino, costruisce da sé, quindi apprende un nuovo argomento, lo assimila, diceva Piaget che gli aspetti innovativi devono essere assimilati, accomodati, quindi poi ognuno se li accomoda a seconda delle cose che sa già, a seconda di com'è, con differenze ovviamente tra uno e l'altro. Questo per noi nella formazione degli insegnanti, e posso dire che troviamo una corrispondenza nei questionari raggiunti, riusciamo con gli insegnanti di scuola primaria, scusate, ho costruito male la frase, a ragionarci costantemente. Molto difficile, quindi una strada completamente diversa è quella delle persone che studiano fisica, matematica, informatica non per diventare insegnanti, ma intraprendono uno studio con mille altri desideri, mille altre ambizioni, mille altre voglie di scoprire, di confrontarsi con queste materie, e si trovano magari dopo 10 anni a dover fare gli insegnanti. Non tutti, qualcuno ovviamente lo sceglie, e questi sono i nostri i nostri punti di forza. Noi che crediamo nel valore dell'insegnamento ovviamente ci confrontiamo molto volentieri con chi lo sceglie, ma ci rendiamo conto che tra gli insegnanti di scuole della scuola media e superiore, con terminologia vecchia, sono una minoranza gli studenti che hanno scelto uno studio di tipo scientifico matematico per diventare insegnanti. E come ricordava Silver, un anno di TFA o l'anno di SIS che c'era qualche anno fa ovviamente non basta a chiudere tutti i buchi, è per fortuna un passaggio obbligatorio adesso della nostra legislazione, che ci permette, che permette ai laureati di discipline scientifiche di avere almeno un anno per concentrarsi sull'aspetto didattico. Ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ci vorrà un bel po' di tempo affinché questo arrivi a sistema nella scuola e quindi mostri i suoi effetti. Dal nostro punto di vista ovviamente la centratura sulla metodologia didattica è molto importante, quindi a noi nonostante il confronto con lo studente che arriva a svolgere un anno di TFA metta in evidenza il fatto che è molto faticoso per gli studenti rimettersi in formazione, arrivano ragazzi che hanno già famiglie, che hanno magari due lauree, che hanno fatto delle esperienze bellissime in giro per il mondo e sicuramente di grossa qualità, chiedere loro di mettersi per un anno a studiare la pedagogia e gli elementi di didattica fondamentale è uno sforzo ulteriore che noi ovviamente che anche a noi fa male, perché naturalmente è duro confrontarsi con persone deluse dal sistema che si rimettono in formazione. D'altro canto siamo convinti che la riflessione sulla metodologia didattica potrebbe essere quell'aspetto legato alla formazione dei docenti che potrebbe portare un cambiamento alla situazione. Un altro aspetto che emerge dalla tesi, che per quanto per le mie, ecco, per i miei interessi scientifici mi viene da evidenziare è quello che i ragazzi, gli studenti intervistati fanno notare, ossia l'inutilità dell'argomento. Ovviamente la matematica non è inutile. Una frase diceva: per me non è utile solo per la spesa, è utile anche per altro. E sappiamo benissimo che una mente matematica è una mente che classifica, che ordina, che ha un che si abitua a pensare in maniera più logica, più sequenziale. Quindi queste sono competenze molto importanti da promuovere nei ragazzi, su questo non c'è dubbio. Quello che notano i ragazzi però è una discrepanza tra dove sono io con i miei interessi, dove mi batte il cuore, quindi quello che io desidero fare, e quello che mi propone l'insegnante. C'è uno scollamento su questo che ovviamente sarebbe bellissimo riuscire a colmare. Sulla fascia della scuola primaria riusciamo a consigliare o a ragionare meglio con gli insegnanti, quindi il discorso di far toccare, insegnare a contare, a far di conto sulle operazioni, toccando, quindi facendo portare a scuola perle di legno, ragionando con l'associazione tra la quantità e il numero, è sicuramente fondamentale per i bambini. Questo diverte, e il questionario è lo rileva, e permette ai bambini di sentirsi più sicuri quando si muovono nei numeri almeno fino a 20 nei primi anni della scuola primaria. Ovviamente questo, se lo pensiamo trasportato alle scuole medio superiori, diventa molto più complesso riuscire a dare una sensorialità anche nell'apprendimento della matematica. Probabilmente è una sfida che sulla scuola primaria riusciamo ancora ad affrontare, diventa molto più difficile e più aumenta l'età. Avevo un ultimo aspetto, scusate, che mi era appuntata. Ecco, il discorso emotivo dell'ansia legata alla valutazione. Su questo sembra ovvio dire: ma scuola media, scuola superiore, il voto ci vuole. Chiaramente il ragazzo, man mano che cresce, deve aver acquisito la competenza per sopravvivere davanti a questo stress da prestazione, deve riuscire a maturarlo. Purtroppo pare che questo stress da prestazione si abbassi sempre di più, quindi già alle elementari i bambini, già alla scuola primaria i bambini vanno soffrendo di questo, sia per i compiti, quindi un trend in crescita, sono le ore di compiti richieste ai bambini, e il discorso della valutazione. Ovviamente l'Invalsi ha in sé un obiettivo positivo, che è quello di darci una valutazione sulla scuola. Arriviamo purtroppo a farlo molto spesso sulla pelle dei bambini, quindi a già mettere i bambini in seconda elementare nella prospettiva di dover superare con buoni risultati dei test. E questo, dal nostro punto di vista, pensando ed essendo convinti del valore di una didattica attiva, ovviamente questo, quindi l'ansia da valutazione e da prestazione, ci deve far riflettere. Vi lascio con questa ipotesi di ricerca. La scuola come ambiente così positivo quale può essere, cosa c'è di più bello che confrontarsi con i coetanei, con un adulto che ci cerca di guidarci, e con il sapere non c'è niente. Ovvio che è uno degli aspetti del sale della vita, quello di imparare e confrontarci. Cerchiamo di renderlo, di lavorare perché sia così, perché il cambiamento sia dentro i bambini e non sia un riempire un vaso e andare a vedere quante informazioni sono state trattenute, perché questo penso non interessi a nessuno, non interessa neanche al più severo insegnante di matematica, sono sicura. Bene. Ho una copia della tesi, può essere, ce l'avete anche qua in biblioteca, perché dal punto di vista metodologico è veramente ottimo, anche se di voti noi cerchiamo di non parlare. Arrivederci a tutti, buon proseguimento, mi scuso e ringrazio. Ci vediamo. Ma io sarò brevissimo, mi è stato chiesto appunto di intervenire qualche giorno fa e devo dire che sulle prime ho detto, vista la tesi, ero piuttosto scettico, insomma, probabilmente anche interpretando così un sentimento che mi accomunerebbe a tanti docenti, insomma, per cui vedere appunto un esperto di didattica non specificatamente formato in matematica, insomma, di solito ai colleghi, e mi ci metto anch'io, fa un po', ecco, fa scattare questa cosa dell'essere un po' scettici, no? Dire, beh, senza sapere la matematica forse non ci si può neanche pronunciare su come debba essere insegnata. E quindi questo è stato un po' l'approccio che ho avuto, diciamo un approccio falsificazionista, diciamo così, verso questa tesi. E quindi mi ha dato ancora più soddisfazione invece leggere la tesi, che ho trovato molto coinvolgente pagina dopo pagina, quando la mia intenzione era così di leggere una pagina ogni 20 più o meno, cercando di capire di cosa si parlasse. Invece mi sono ritrovato a tornare indietro, a rileggere le cose, e credo che la leggerò ancora, dicevo, e quindi mi complimento pubblicamente con Silver, anche perché oggi si fa un gran parlare di cosa fare, come insegnare la matematica. C'è un dibattito che non so se alcuni di voi seguono su internet, sui giornali, nei vari blog, anche negli Stati Uniti, ecco, è molto vario e ci sono molti esperti, spesso persone che non hanno mai insegnato, che non, in qualche caso magari manager o industriali, ecco, che pensano di avere la ricetta, che può essere quella di assolutamente informatizzare tutte le scuole e insegnare la matematica con i tablet, oppure appunto di cercare di rendere i concetti più diciamo più non più coinvolgenti, ma più concreti, ecco, quindi fare vedere le applicazioni della matematica, no? Io trovo invece che la tesi di Silver appunto eviti di entrare in queste paludi, e sia molto apprezzabile perché è stata molto concreta sugli aspetti di base, insomma, no? Quindi appunto, come diceva la professoressa Caprara, formulato delle domande ben precise rispetto alle quali trovare delle risposte. Quindi mi sembra quindi che Silver abbia proprio dato uno spettro completo di quella che è la situazione, poi ovviamente trovare le ricette sarà molto più complicato, però almeno sappiamo bene di che cosa, qual è il punto di partenza, ecco. Detto questo, volevo solo, rispetto a quello che ha detto la professoressa Caprara, fare qualche ulteriore considerazione, suggerire qualche stimolo per chi volesse approfondire. Trovo molto interessante il blog del professor Giorgio Israel, se andate su internet lo trovate facilmente, che è un matematico, è un professore di storia della matematica alla Sapienza di Roma, che ha anche dei figli in età scolare e che quindi osserva da vicino come genitore, e come genitore anche con uno sguardo da professionista della matematica, come avviene l'insegnamento nelle primarie, e ci tiene, ad esempio, va molto in controtendenza, devo dire, rispetto a quello che è quello che sembra il dettato imperante, no? Che senza matematica o senza l'oggetto concreto da toccare, scusate, senza informatica, senza computer, senza l'oggetto concreto da toccare, non si possa fare matematica, ecco. Io credo, come Giorgio Israel, che occorre riflettere sul fatto che la matematica, la sua quintessenza sia proprio quella di essere un discorso astratto, quindi va molto bene probabilmente introdurre gli studenti ai concetti attraverso le cose visualizzabili, attraverso anche il tatto nel caso dei bambini più piccoli, però credo che appunto inseguire la dimensione del gioco, come si vedeva in quei grafici, anche a livello di scuola superiore forse potrebbe non essere la soluzione per far apprezzare o amare la matematica. che appunto rimane un linguaggio astratto, qualcosa che insomma, quando si parla dell'infinito, credo che non ci sia alla fine veramente nulla di meglio che una dimostrazione matematica. Cioè, si può anche portare un quadro di un panorama con il mare, eccetera, no? Però alla fine compito della scuola, soprattutto anche in questa età in cui ai ragazzi forniamo sempre tutto comodamente visualizzabile a partire dagli effetti speciali nei film, cioè è anche quello di sollecitare questa capacità di andare al di là di quello che possiamo vedere, quindi di far vedere come la mente possa accedere a qualcosa di sostanzialmente di invisibile e di bello, che non è qualcosa solo di estetico che possiamo vedere con gli occhi, ma che possiamo vedere anche con la mente. Volevo fare un'altra considerazione, però non la ricordo, magari lasciamo lo spazio all'uditorio. Sicuramente vedo ci sono dei professori di ogni ordine e grado, probabilmente hanno qualcosa di interessante da dire. Io volevo dire una cosa, non sono nell'ambito, sono soltanto venuto a sentire Silver, che è un caro amico, e ascoltando appunto tutti i discorsi che si sono fatti, secondo me bisogna tenere conto anche un po' della persona, nel senso il bambino con l'età cambia, nel senso dal punto di vista psicologico anche, quindi un bambino da piccolo gli piace magari la matematica, gli piace il tedesco, l'inglese, così come gli piace l'educazione fisica, perché prende tutto da un certo punto di vista. Crescendo le cose cambiano, cioè si fa più fatica, diciamo, a fare tutto, secondo me, aumentando l'età. E secondo me è proprio la fatica il punto cardine della questione, perché cioè, imparare la matematica come imparare il tedesco si fa fatica, cioè nel senso, se io devo arrivare a un risultato, ma anche l'educazione fisica, se viene messa in certi, se venisse messa in un certo punto di vista in cui devo arrivare a dei risultati per forza, cioè un atleta deve fare fatica, e quindi dal momento in cui uno fa fatica e deve raggiungere dei risultati, se non è motivato al punto giusto, quella cosa lì non piace più, secondo me. Quindi quello che manca veramente, oltre magari alla metodologia didattica, che sicuramente ha un ruolo, però la vera, secondo me, la cosa importante è la motivazione, perché io devo fare così tanta fatica per raggiungere questo obiettivo in matematica? È questo, secondo me, che volevo anche far riflettere. Posso firmare? No, due osservazioni. La prima: Conrad Lorenz scrive in un suo libro che un professore di filosofia, di biologia, chiedo scusa, considerava la filosofia occidentale il più grande sforzo a vuoto della mente umana. Ecco, visti questi risultati, anche per la matematica forse arriviamo là vicino, insomma, ecco. E perché questo? Ma insomma, si può discutere su tante cose, ma per inciso, purtroppo non c'è tempo, insomma, per inciso direi che l'infinito matematico è molto diverso da quello di Leopardi, è tutta un'altra cosa. La matematica è molto tecnica, quindi spiegare tecnicamente cosa vuol dire un otto sdraiato e come si usa può essere sufficiente, insomma, senza entrare in molte considerazioni. E poi devo dire, mi scusi, ma sono parzialmente d'accordo con le sue conclusioni, nel senso che lei alla fine riporta tutto alla formazione degli insegnanti. Ma come formare questi insegnanti? Come sono già adesso? Con la matematica che non piace, con gli studenti che si scrivono a lettere per avere più gli esami di matematica, oppure forse vanno formati in modo diverso. Ecco, secondo me nella formazione degli insegnanti dovrebbe rientrare in maniera prepotente l'epistemologia. Cioè, per arrivare a certi concetti, che può essere lo zero, ma può essere l'insiemistica, o altre cose, o cos'era un numero reale. Per non parlare dell'irrazionalità di radice di due, dove quando l'ho scoperto sono rimasti sconvolti i matematici e hanno scritto, diciamo, frasi tremende contro il delatore che ha fatto sapere che questi numeri non razionali. Ecco, hanno impiegato millenni gli uomini per arrivare a queste cose. E allora forse bisogna cambiare anche il concetto di epistemologia dell'insegnamento. evitare le difficoltà più ardue. In fondo, se noi pensiamo alla matematica moderna, che poi si è andata a discutere quando farla partire, ma insomma, facciamo partire da Galileo, che mi fa poco. Galileo scriveva che la geometria, lui non la matematica, la geometria è l'alfabeto della natura. Allora, la matematica ha uno spazio immenso come alfabeto delle altre scienze. Allora, cerchiamo di spiegare questo, perché sto solo entrare negli intrighi, cosa vuol dire zero, non zero, se i naturali partono con uno zero, partono con uno, che sono questioni tecniche, tipicamente matematici, matematiche e che non interessano nessuno. E poi continuo a suggerire una domanda agli studenti: ti è stato utile qualcosa che studiò di matematica? Pensi che ti potrà essere utile in futuro? E secondo me in grande maggioranza diranno no. Rispondo alle due. Le due, diciamo, domande, anche se la prima non è una domanda. Allora, nel suo caso parlava di motivazione come punto fondamentale, e credo che se non è emerso questo dall'esposizione, comunque mi dispiace, perché parlando di metodologie didattiche automaticamente si parla della motivazione, cioè le metodologie didattiche devono essere poi, devono andare poi nell'ottica di coinvolgere lo studente e motivarlo ad apprendere, consapevoli della fatica che c'è dietro, quindi consapevole del fatto che si debba far fatica. L'insegnante però è chiamato a trasmettere questa fatica e quindi a far capire, devi capire queste cose qua anche se sono difficili, quindi si mette magari anche dalla parte dello studente, quindi si crea un'alleanza con lo studente per cercare di raggiungere e costruire un apprendimento. Credo che le due interventi siano contrapposti, nel senso da una parte si parla dell'importanza della fatica, dall'altra di eliminare alcuni aspetti dell'epistemologia per evitare la fatica. I più difficili, io credo che per la prima parte della domanda che ha detto, riferita alla formazione dei docenti, credo che la formazione dei docenti risenta proprio della formazione della persona, quindi la persona che va, che finite le scuole, le superiori, sceglie che cosa vuole diventare dopo, ha già un suo vissuto, quindi evita la matematica e magari va a lettere perché ha avuto un vissuto negativo con la matematica, questo non lo sappiamo, voti o per qualsiasi altra situazione. Ma se poi noi andiamo a vedere mi suggeriva anche il professor Colletti nell'ambito della formazione quali sono i corsi anche dopo la riforma in cui è cambiata da lauree specialistiche a lauree magistrali, quali sono i corsi presenti di matematica all'interno degli atenei, all'interno delle offerte didattiche, sono pressoché inesistenti. Ci sono corsi facoltativi, quindi a scelta dello studente, c'è un corso credo obbligatorio a Bologna, ma in ambito, diciamo, nell'ambito della didattica della matematica sto parlando, e della didattica in generale, perché io qua nella tesi sono andato a ricercare e a cercare di capire il perché ci sia stato realizzato un cambiamento dalle lauree specialistiche a lauree magistrali, aspettandomi, come era stato anche dichiarato, che le lauree magistrali dessero già una parte didattica all'interno della loro offerta didattica. Questo era proprio lampante, era stato dichiarato, e quindi uno si aspetta che lo studente che appunto entra in formazione, e qui parliamo proprio di come intervenire nella formazione, ci si aspettava che l'offerta didattica, quindi 5 anni 3 più 2, avessero al suo interno parti didattiche, insomma, che quindi alla fine dei 5 anni la persona non avesse 5 anni di disciplina, ma magari 3 anni di disciplina, 4 anni di disciplina e 1 di didattica, più il TFA, il tirocinio formativo attivo, andava a compensare un po' le cose. Andando ad analizzare prima e dopo la riforma gli ovveri offerte didattiche presenti sul territorio, diciamo nord Italia soprattutto, ho guardato, ma di tutte le discipline sto parlando, non sto parlando solo della matematica, dal prima e dopo la riforma non c'è stata alcuna differenza nei corsi offerti. Quindi il cambiamento sostanziale è avvenuto da specialistica, il termine specialistica, al termine magistrale. Quindi questo è quello che si deve far riflettere. Si vuole intervenire sulla formazione, ma come spesso accade, non solo in Italia, si pensa che cambiando il nome si vada a cambiare il contenuto, ma non è così. E tutti ci aspettavamo soprattutto che il cambiamento in magistrale fosse veramente un cambiamento decisivo, perché poteva permettere a quelle persone, sia a quelle persone che volevano poi in futuro andare a insegnare, ma sia anche a quelle persone che a livello culturale, personale, volevano accrescere la propria competenza didattica, che nelle lauree magistrali, quindi qui parliamo solo degli ultimi 2 anni, ci fossero delle competenze didattiche forti. Quindi non importa se i primi 3 anni la persona si è concentrata e ha migliorato e ha acquisito la disciplina, perché poi se negli ultimi 2 anni diciamo della magistrale vengono riprese degli aspetti didattici, diciamo si va a compensare. Ma se questo non avviene e se questo intervento rimane su un piano di termine, diciamo di terminologia, cambiando poi anche dalla SIS al TFA, quindi da 2 anni di SIS che c'erano anni fa per l'abilitazione dell'insegnante, sono stati dichiarati mal organizzati e quindi ci si è spostati verso quello che oggi è il tirocinio formativo attivo. Il tirocinio formativo attivo è un anno solo, lo ripeto rispetto a quello che ho detto prima, un anno da solo, per quanto bene possa essere strutturato, perché io sono sicuro che un anno immerso nella scuola o comunque con tirocinio nella scuola e con esperienze didattiche all'università fatte veramente con attenzione, un anno solo non può andare a compensare quello che la persona ha acquisito per 5 lunghi anni di studio, di laurea. Quindi poi si trova spiazzato, e come tutti facciamo quando entriamo in classe o quando abbiamo a che fare con delle persone o nel nostro mestiere, facciamo ciò che più conosciamo, ciò che meglio conosciamo. E nel caso di un insegnante che ha avuto 5 anni di disciplina e uno solo didattica, che cosa conosce meglio, che cosa farà meglio, dove si sente più sicuro? Nella disciplina, e quindi ripropone uno stile legato alla disciplina, formando quegli studenti sulla disciplina, creando quindi un sistema di disaffezione che, se non viene rotto questo circolo vizioso, continua così, perché poi al termine della scuola superiore c'è comunque un allontanamento con ricadute forti sia sul piano della dispersione scolastica, se vogliamo andare a vedere, e nell'indagine di cui mi occupo adesso è proprio quello che voglio anche andare a considerare, perché la classe coinvolta sarà una prima superiore, non più una seconda. Cerchiamo di capire se ci sono differenze significative, ma anche il discorso dell'inutilità è una delle motivazioni forti che sta alla base del nuovo lavoro, cioè capire se l'utilità è un aspetto principale, l'aspetto della fatica anche è un punto forte, ma poi appunto cercare di creare delle soluzioni per migliorare questo aspetto. E un altro rischio che stavo dicendo prima, non solo quello della dispersione scolastica, ma appunto dell'educazione permanente, perché se noi continuiamo a parlare di educazione permanente e vogliamo che le persone continuino a formarsi per il resto della vita in generale, noi sappiamo già però che attuando un certo tipo di didattica e avendo questi risultati, sappiamo che queste persone, questi studenti, dopo la loro esperienza scolastica non si avvicineranno, difficilmente si avvicineranno a quelle che sono state le discipline meno apprezzate nel loro percorso scolastico, se non magari con una riflessione, una metacognizione o magari una comprensione del fatto che quella disciplina mi possa servire per la vita o per un concorso o per quant'altro, e quindi mi rimetto in gioco. Ma altrimenti è inutile che parliamo di educazione permanente in generale, perché lì quella non può essere raggiunta se già nella scuola selezioniamo, perché alla fine dei 5 anni lo studente sceglie già qual è il suo percorso, tolto, cioè andando a togliere quelli che sono le cose che gli hanno creato più difficoltà nel corso della scuola. Quindi lì è una doppia sfida: cercare di evitare la dispersione scolastica, cercare poi di permettere, di dare l'opportunità alla persona di continuare su tutte le vie. Se ripensiamo alla legge Gentile che ha permesso di accedere a tutte le università, di fatto in sostanza questo non succede, perché comunque con un certo tipo di didattica, con questi risultati, ciò non avviene, perché arriviamo comunque alla fine delle superiori che c'è già una scelta ben precisa dello studente. E questo non significa se mi piace più una cosa rispetto a un'altra, significa questa cosa proprio non la voglio più vedere, non la voglio più sentire, se arriviamo ad un vissuto così difficile. Questo è quello che volevo dire. Posso fare così una domanda? Ma non è che questo sia anche un po' determinato da una politica culturale? Non lo so, perché se io guardo, operando in questo settore, le offerte editoriali e anche diciamo nell'ambito dell'educazione permanente o comunque in generale nell'ambito culturale sono molto e fortemente sbilanciate in quello che è il settore storico e artistico. Altro, cioè la matematica è completamente tagliata fuori. Adesso, a parte il caso editoriale di Freddi e di qualche altro appunto autore che ha cercato e sta cercando in tutte le maniere, o qualche operazione di quotidiani di letteratura nazionale che danno questi inserti per così restituire in termini anche divulgativi un piacere, una conoscenza matematica, ma per il resto noi siamo completamente in balia di una, lo considero, forte sbilanciamento, ecco, nel settore letterario, umanistico e soprattutto anche artistico, ma non c'è una, sicuramente, un intervento da... No, sicuramente cioè, è così, e credo che il problema principale dei matematici, di chi si occupa di didattica della matematica, sia risolvere intanto il problema con la matematica prima di fare il passo e dire ok, divulghiamo qualcosa a livello proprio di, più tranquillo, in modo che la persona possa, cioè se non si cerca di risolvere proprio i problemi, ma adesso non parlo solo di problemi legati alla disaffezione scolastica, ma proprio problemi di che cosa insegnare anche nelle scuole, come organizzare l'insegnamento nella scuola, quindi non solo proprio legato alla relazione affettiva, proprio legato a un problema che è forte, che è presente nella matematica, a tutta l'opinione generale sulla matematica, anche che danneggia la matematica stessa, al fatto che comunque l'Invalsi ogni anno porti fuori dei dati che devono far riflettere, che portano di nuovo la matematica in un punto, appunto, un punto sfavorevole rispetto alle altre discipline, e quindi e poi c'è proprio la tendenza a vedere la matematica come la bestia nera, e questo è il problema, cioè quando anche non è la disciplina più complessa si tende comunque a ritenerla tale, e quindi questo comunque fa... Prego. Una cosa a proposito del discorso che vale più la pena impegnarsi su adesso nuove generazioni eccetera, è sì, solo che se ci si mette comunque del tempo per recuperare nuove generazioni, impostare un nuovo piano didattico, nel frattempo comunque la vita lavorativa di tutti noi si è allungata molto, per cui mi sembra che sia comunque importante in qualche modo considerare anche l'educazione permanente, quindi recuperare con dei corsi universitari, parauniversitari, eccetera, assolutamente quello. Altrimenti, infatti, la mia presenza qui era proprio per capire se c'è un'offerta, perché io quello che ho trovato per il recupero dell'argomento che non mi interessava, ma adesso mi interessa, è soltanto il corso di laurea a Bolzano in inglese, come nell'ambito dell'economia e basta. Come nell'ambito della didattica della matematica parliamo? No, non di didattica, dell'imparare la matematica. Ah, imparare la matematica. Non life learning, no? Questo magari avere delle offerte, cioè almeno chiedo a voi, io quello che ho trovato in provincia è soltanto questo, il corso di laurea di matematica presso economia o informatica all'Università di Bolzano. Sì, quello. Sì, quello è considerato, diciamo, l'apprendimento della matematica. Se invece si vuole vedere la matematica da diversi punti di vista, cioè apprendendo quelli che sono comunque concetti di matematici, ma valorizzando anche tutto il discorso del contesto, io mi sposterei più in quel caso sulla didattica della matematica. Come dice il professor Colletti, non si impara la matematica, non si diventa esperti di matematica, però si cerca di capire, lavorando anche sulla storia della matematica, lavorando sull'insegnamento, sulle difficoltà che sono l'insegnamento, cerca di capire quali sono i concetti difficili, e nel cercare di capire i concetti io comunque cerco di avvicinarmi al concetto stesso, ma al concetto stesso matematico, quindi mi avvicino anche alla matematica. Uno dei più grandi convegni nazionali qui in Italia è Incontri con la Matematica, che si tiene a Bologna e si occupa di didattica della matematica. Quindi quello è consigliatissimo. Prego. Molto interessante questa, diciamo, questa ricerca che va a studiare le cose come sono così. Io sono convinta che sia fondamentale, diciamo, dal punto di vista del tentativo di soluzione del problema, il rendersi conto e il curare il fatto che la matematica è utilissima, importante in un numero infinito di applicazioni. Cioè io sono convinta, e non vorrei essere brutale magari nell'esprimere questo pensiero, anche perché sinceramente io non conosco molto quello che avviene a livello di scuola, né primaria né secondaria, così ho più esperienza, diciamo, con l'insegnamento all'università, ma sono convinta che dall'inizio fino ai più alti livelli, diciamo, universitari, per porgere, per offrire la matematica sia quello di far capire a cosa serve a studiare qualche cosa. La matematica che tantissime persone ricordano nella scuola è una matematica di aspetti tecnici, prettamente, come se uno dicesse studia la grammatica, tu studi la grammatica, coniugazioni, declinazioni, cose di questo tipo, e non arrivi mai a leggere un testo, ad apprezzare la musicalità di una poesia, a godere, diciamo, della lingua. Ecco, allora, molto spesso la matematica è stata vista da tante persone come qualcosa così di freddo, di tecnico, che comunque richiede un ragionamento esatto e quindi richiede uno sforzo, e non si capisce bene a cosa serve, poi cosa, perché devo studiare come si risolve una equazione di secondo grado, perché devo imparare che prima le parentesi tonde, poi quelle quadre, poi cose così. Ecco, e io credo che quello che è importante nella formazione degli insegnanti sia che questi insegnanti siano consapevoli, conoscano, abbiano presente loro stessi le applicazioni, che possono essere chiaramente diverse, quelle che si descrivono a bambini, diciamo, dalle elementari, piuttosto che non a studenti più adulti. E questa sia la cosa, cioè penso che negli anni passati, per esempio nelle riforme che ci sono state, pur essendo io come ho detto prima completamente consapevole delle cose che ci sono state, ma vedendo figli di amici così che dovevano lottare con gli insiemi, con delle cose che tutto sommato cosa hanno portato in più? Non hanno portato niente. Una cosa da dire è Eulero che ha risolto problemi concreti di fisica, di astronomia, in infinite direzioni, ha scritto metri e metri di libri. Eulero lavorava con delle cose che noi oggi chiameremo degli errori grossolani, sui quali bocceremo gli studenti ad analisi 1. Quindi il discorso è, prima che non pretendere l'astrazione più grande, il rigore ad ogni livello, deve essere chiaro qual è la motivazione, perché serve qualcosa, e io credo che tantissimo verrebbe risolto in questo modo. E dico questo perché sono parecchie sempre le persone che, ad esempio, sentendo sei uno matematico, fai ricerca in matematica, perché c'è ancora qualcosa da provare in matematica, e che non hanno per nulla la dimensione del fatto che, certo, è fondamentale, ma è fondamentale non solo per gli aspetti tecnici, per l'ingegneria, per l'elettronica, per l'astronomia, così, ma è fondamentale in questioni anche, per esempio, di ambito sociale, cioè che è importantissima la interdisciplinarietà. E ultima cosa che rapidamente dico, sì, è vero, c'è soprattutto in Italia questa forma un po' di separazione, per cui pare che chi si occupa di scienze umanistiche, detenga la cultura, mentre le cosiddette scienze fredde come si vogliono definire, siano un qualcosa di tecnico, di inevitabile, perché certo ci vuole anche chi costruisce i motori e fa andare le macchine, però quella non è cultura, e questa è una cosa che va lottata. Cioè, credo che questi siano ingredienti importanti per cercare di apportare una possibile migliorare. Aspetta, quest'ultima cosa. Sì. No, poi non riesco più a tenermi in memoria. Una cosa rispetto a quello che ha detto adesso, il discorso della contrapposizione tra sempre l'umanistico e lo scientifico è un punto su cui, rispetto a quello che mi diceva prima, si sta lavorando molto. Quindi chi si occupa di matematica e didattica della matematica si sta occupando molto di cercare di far capire che questa contrapposizione di fatto non c'è. Un libro molto bello che mi è venuto in mente è Matematica come farla amare, di Bruno D'Amore e Fandinho Piniglia. Qui proprio lui riflette su questo aspetto qua, del fatto che non ci siano due culture, che ce ne sia una sola, ma che nell'opinione comune si tenda a differenziarle, e in questo libro poi ci sono anche molti consigli didattici, è veramente molto interessante. E rispetto all'altro punto che ha detto dell'utilità matematica, sempre in questo libro qua comunque, e si parla anche del fatto che l'utilità viene vista spesso o come qualcosa di incredibile, cioè da trasmettere, come la matematica serve per far andare nello spazio i razzi o per far funzionare cose elettroniche, ok, o come un'utilità pratica che quindi si esaurisce con i conti al supermercato. Io credo che dovremmo trovare un punto, una via di mezzo di queste due percezioni che sono molto lontane tra loro e non utili, diciamo, ecco. Ma la via di mezzo potrebbe essere quella semplicemente di far capire che la matematica aiuta al ragionamento, aiuta a costruire, a organizzarsi, a, come diceva prima anche Barbara Caprara, a costruire una metacognizione, riflessione, ragionamento, senza dover giustificare l'apprendimento di una funzione magari con il fatto che ci serve per far funzionare il computer o quant'altro, o non lo so neanch'io, perché io credo che uno studente di scuola superiore non abbia nessun... non sia minimamente interessato a sapere che la funzione possa portare ad andare nello spazio, perché non è una cosa vicina a lui. Ma se noi portiamo l'interesse più vicino allo studente, cioè a fargli capire che sicuramente serve anche a quello, cioè le applicazioni le dichiariamo tutte, è chiaro, ma a che perché lui la sta imparando, perché deve fare gli asintoti o quant'altro, cose che nel concreto non possono non aver senso, perché comunque aiutano a riflettere, aiutano a costruire degli schemi mentali, delle mappe, ad organizzarsi. Questo credo che sia la vera utilità della matematica. E al di là del fatto che è proprio il corso dell'interdisciplinarietà va portato avanti anche nella scuola superiore, già nella scuola primaria andrebbe ancora di più coltivato, ma in tutti gli ordini scolastici, se noi riusciamo a far capire le connessioni che ci sono tra le discipline, difficilmente gli studenti distinguono una disciplina dall'altra, anche se poi chiaramente i voti sono non per scelta nostra ma per scelta del sistema, saranno distinti e tutto viene settorializzato, diciamo. Però va fatto capire che c'è proprio un legame tra le varie discipline, e lì sta anche l'utilità, lì c'è anche molta utilità, e l'insegnante deve fare questo passaggio in più. E un'ultima cosa che diceva dei concetti, io credo che a scuola manchi molto anche l'aspetto della storia della matematica, perché se noi a scuola andiamo ad affrontare storia dell'arte, storia, comunque in italiano c'è tutta la storia dei vari poeti e quant'altro, la storia è storia stessa comunque delle civiltà, perché in matematica raramente, ci sono casi rari in cui l'insegnante si sofferma sulla storia, che è invece un punto veramente forte di motivazione nel far capire allo studente che la difficoltà che sta trovando lui ad apprendere un concetto l'hanno trovata e l'hanno dovuta affrontare per moltissimi, per millenni, magari scontrandosi prima di arrivare ad una definizione, magari ancora oggi non siamo arrivati a niente rispetto a quel concetto, dobbiamo ancora fare dei passi avanti. A scuola non si sa mai a che punto è la matematica, sembra che tutto sia lì perché è stato fatto e perché non calato dal cielo quasi, non si è capito il perché siamo arrivati a questo punto e se c'è ancora qualcosa da fare. La storia della matematica credo che sia un punto veramente forte come azione nella scuola, ma questo vale per tutti i livelli. Non so se il professor Colletti può dire qualcosa a riguardo. Adesso forse siamo come tempi anche un po'. No, volevo solo esprimere un dubbio che ho, che mi sono posto molte volte rispetto a quello che diceva la professoressa Bertotti, cioè far vedere l'utilità della matematica. Con la matematica possiamo risolvere problemi che riguardano l'economia, l'ingegneria, eccetera. Da una parte, cioè, è assolutamente vero, però questa matematica insomma è di un livello non proponibile a una scuola superiore molto spesso. E quella che si può proporre spesso, cioè nei libri di testo scolastici, quello che io osservo è che la praticità della matematica viene trasmessa attraverso delle situazioni del tutto fittizie che insomma alla fine ottengono il risultato opposto. Cioè si dice, non so se vi ricordate una ventina d'anni fa uno dei pezzi d'esordio di Andrea Castelli, no? In dialetto trentino, diceva il problema della vasca, no? c'era un rubinetto che perde, no? E giù in fondo c'era scritto 25, ma dice cosa ha a che vedere con me? Ecco, proprio l'aspetto del poter risolvere un problema che nella vita pratica uno risolve in tanti altri modi molto più velocemente, forse molto più più anche efficacemente che scrivendosi in equazione, risolvendola, eccetera. Fate vedere che con la matematica risolvo problemi tecnici, mi fa venire il dubbio che appunto la matematica venga vissuta dagli studenti come qualcosa di tecnico, come qualcosa che diciamo che è dello stesso livello del io faccio l'elettricista perché mi interessa smanettare con i cavi elettrici, io faccio l'idraulico perché, e poi c'è la matematica con la quale risolvo i problemi tecnici. Io credo che forse gli studenti delle superiori in particolare apprezzerebbero di più invece la matematica se fosse posta come proprio capacità dell'intelletto umano di arrivare a cogliere cose che sono al di fuori del quotidiano, e poi hanno il grande potere, questo lo si può dire senz'altro, di aiutare a facilitare le cose quando devo mandare un'astronave sulla Luna. Però presentarlo come un linguaggio, ad esempio dire anche una cosa, io l'ho sperimentato, dire guardate 2x uguale a 6, la soluzione è x uguale a 3 ed è la soluzione oggi tra 1000 anni, e lo era 1000 anni fa ed era nella cultura egizia e nell'Unione Sovietica, insomma, ecco, ho sperimentato che dire questa cosa proprio banale ha un certo effetto, insomma, cioè presentare che l'idea che esista una verità incontrovertibile che va al di là del tempo, delle epoche, delle civiltà, insomma, mi sembra che agire in questo senso possa servire di più che far vedere che con la matematica si risolvono problemi, perché allora uno dice, beh, ma quei problemi non mi interessano, il problema della vasca o del missile non mi interessa, cosa me ne faccio della matematica? Invece gli si dice tu sei un essere umano e con la tua mente arrivi a sperimentare le stesse cose che ha sperimentato lo schiavo di Platone, a cui Platone fa ricavare il teorema di Pitagora. Sì, ma possono esistere le cose. Io non è che ho il problema della vasca, cioè aspetti diversi, ma... Una domanda matematica. Allora, nell'ambiente di lavoro un ragazzo che ha compiuto 16 anni può lavorare, è messo al lavoro e praticamente non può superare le 6 ore. Quante ore deve studiare un bambino alla prima elementare, seconda elementare, terza elementare? Non vi siete mai chiesto? Io sono perfettamente, io lo dico sempre, secondo me quando tra 100 anni forse guarderanno la nostra epoca, vedranno che i nostri studenti stanno a scuola per 38 ore alla settimana in qualche caso, e poi si pretende a loro ancora l'impegno casalingo, che secondo me è fondamentale, adesso ci rendiamo conto che stiamo facendo, cioè fare di tutto per togliere la motivazione, insomma, ai ragazzi, cioè di togliere c'è bisogno del tempo, del silenzio, dell'attesa, cioè tutto il lavoro assolutamente, però certo che se uno deve comprimerlo tra 6 ore di lezione che iniziano, secondo me è una cosa proprio dell'altro mondo, alle 7:40 in certe scuole la mattina e finiscono alle 14, con 7 insegnanti che ogni 45 minuti si sostituiscono uno all'altro, ognuno convintissimo della sua materia, eccetera, come se fosse la cosa più importante del mondo. E poi questi arrivano a casa e devono andare a musica, ginnastica. Mi sembra il suicidio della formazione. Non è tutta la matematica. Io ho attraversato il secolo all'inizio della scuola. Matematica era proprio una godura, era bellissima la matematica. È bellissima la matematica perché ci prepara nella vita. No? Però non eravamo caricati, avevamo 4 ore. E poi tutto il tempo al pomeriggio giocavamo, compiti a casa duravano mezz'ora, compiti a casa. I ragazzi adesso sono caricati troppo rispetto a cioè devono assimilare dei concetti che non sono alla portata della loro non li assimilano probabilmente neanche più perché bisognerebbe risolvere questo problema, cioè, culturale. Non sono insegnante, sia i bambini che gli insegnanti, appunto, quantitari. Come se avessero una memoria esterna, cioè non hanno neanche più. Hanno una potenzialità Cioè, come mai dobbiamo gli adulti, cioè a 15 anni nel lavoro, non è che il lavoro sia più leggero, e lì non si può, sono... E oltretutto poi a scuola i bambini sono obbligati ad andare, non hanno scelto di andare, come magari l'università, uno finisce la quinta superiore e dice io scelgo questa, la scuola è un obbligo, è già un'imposizione di partenza, quindi lì dobbiamo pensarci bene su cosa poi facciamo. Cercate di accompagnarli nella loro crescita e non subito, cioè forse di questo bisognerebbe fare la riforma. Sì, io credo che con dei buoni progetti, anche di preparare di interventi possibili, poi sono idee personalissime, ma con dei buoni interventi di continuità tra gli ordini scolastici, dove si progetta qualcosa a lungo termine e dove allora si tengono conto di questi aspetti, si tiene conto del fatto di valorizzare anche tutto il tempo libero degli studenti, quindi di lasciare spazio anche alla loro tranquillità, in modo che poi il giorno dopo siano pronti per stare a scuola, per avere l'opportunità di acquisire e di costruire un apprendimento. Lì, con una buona continuità sui vari ordini scolastici, credo si possa poi andare a fare qualcosa. Diciamo che non c'è una bacchetta magica, bisogna cercare di migliorare un po' alla volta, però quello che vedo è che invece che favorire continuità si tende sempre a favorire una rottura o comunque una forte divisione, come diceva anche il professor Colletti, ogni 45 minuti si cambia insegnante e ci si aspetta dal bambino la stessa attivazione che aveva 45 minuti prima, e non si accetta il fatto che comunque sia obbligato a stare lì. Magari abbia avuto difficoltà la sera prima, abbia avuto un litigio, cioè si sia portato comunque a scuola quello che fa parte della sua vita, perché la scuola fa parte della sua vita comunque, e quindi non si tenga conto di queste cose. Io credo che comunque andando avanti negli anni gli ordini scolastici si tenga sempre meno conto di questi aspetti in media. Poi ci sono insegnanti anche alla scuola superiore e alla scuola media che invece lavorano in questa direzione e che fortunatamente sono ancora quegli insegnanti che riescono a dare qualcosa e lasciare qualcosa agli studenti. Quindi sì. Una piccola osservazione per quanto riguarda l'utilità della matematica e degli aspetti tecnici. La matematica ha degli aspetti, diciamo, filosofici. Facciamo un caso che conosciamo tutti, la geometria euclidea. Tutti questo di geometria ai primari delle superiori, i cinque postulati, eccetera. I cinque postulati concepiti o non concepiti i greci attualmente sono ridicoli, perché non risponde a quei canoni di rigore che nei 2000 anni la matematica, nel 2005 la matematica ha maturato. Però ci accontenta ancora di quelli e si sviluppano ragionamenti, cos'è un quadrato, cos'è una sfera, eccetera. Allora, ci sono degli aspetti tecnici e ci sono anche degli aspetti, diciamo, culturali, nel senso di comprendere l'universo, la natura, come diceva Galileo. Se la matematica è soltanto formazione e attività mentale, allora c'è ragionare su cosa è meglio, cosa è peggio, cosa fare, come non fare, tipo il gioco degli scacchi. Attualmente insegnare ai ragazzi a giocare a scacchi e giocare a bridge, tra l'altro il bridge non è anche un po' di probabilità, tra l'altro, e rinunciare a studiare matematica, che tanto boccia tutti, insomma, meglio non farlo. Se si studia matematica in tutte le scuole italiane, sempre, è perché si pensa che nella vita professionale sarà utile. Allora insegnare fin da subito che oltre a fare calcolare moltiplicazioni con numeri interi si può anche dividere a fette una torta, ecco, potrebbe essere un modo utile per stimolare anche l'applicazione o l'applicabilità di quello che si studia in matematica, e quindi la forma mentis diversa. Sì, chiaramente dico solo, diventa difficile poi andando avanti con gli ordini scolastici continuare a concretizzare questa cosa, però se si ha l'interesse di farlo credo che sia già un punto buono. Questa volta continua a divertire la matematica, se no avremo sempre studenti bastonati. Io magari un po' per concludere volevo riprendere anche un paio di interventi, sono stati il primo di questo signore, evidenziando anche un aspetto secondo me molto importante, cioè il fatto che la matematica sia una delle discipline più utili per appunto imparare a fare un ragionamento sequenziale di lunga durata e rimane appunto coerente. E secondo me è un aspetto da un lato cruciale per il discorso della difficoltà. Io lo vedo anche con i miei due figli che sono qua presenti, che in realtà conoscono bene i vari, diciamo, passaggi, però che spesso poi alla fine, magari durante un esercizio, fanno alla fine l'esercizio non è più corretto perché da qualche parte nella sequenza c'è il solito errore, e questo è quello che poi secondo me andando avanti col grado della scuola, spesso crea quella frustrazione, perché effettivamente alle elementari gli esercizi ti vengono, più vai avanti più alla fine non ti vengono. Però secondo me, dicevo appunto, è molto interessante questo aspetto della matematica, perché viviamo in un mondo sempre più complesso e evoluto, dove veramente ormai tutte le discipline sono estremamente vaste, e quindi per ottenere qualsiasi tipo di risultato bisogna essere capaci effettivamente di governare una sequenza di singoli passaggi che magari non sono neanche così complessi in se stessi, ma che poi alla fine, vista la loro grandezza, alla fine diventa complesso. Quindi la capacità degli insegnanti di trasmettere che la matematica è la scienza regina per imparare a fare un ragionamento lungo e quindi complesso ed arrivare a un risultato che logicamente tiene, potrebbe essere uno degli aspetti più interessanti da evidenziare. Credo anch'io. No, volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che ti ho detto adesso. Il discorso però è sempre da tenere in considerazione il fatto che, e questo me ne accorgo quando parlo con insegnanti di diversi ordini scolastici, spesso parlando di questi aspetti che ho presentato oggi, si rischia di ricadere sempre sul piano cognitivo, cioè sul il voto, sul contenuto, e mai ci si chiede come sta lo studente di fronte a questo, come sta vivendo questa situazione. Io credo che lo possiamo ammettere tutti, come studenti o come anche insegnanti, a scuola quante volte ci è stato chiesto una verifica, sta andando ad analizzare il contenuto, ma ci è stato chiesto una verifica come ti senti oggi prima di analizzare, è una cavolata che magari non è realizzabile, però non è successo. Quindi lavoriamo sul cognitivo sempre, e quando anche parlo con gli insegnanti, soprattutto di scuola secondaria di secondo grado, non voglia il professore, ma si ricade, cioè se stiamo parlando comunque di aspetti che non toccano il cognitivo, cioè in senso i contenuti della matematica intendo, ma toccano tutta la didattica, il contesto, il setting, la relazione insegnante-studente, dopo pochi secondi mi rendo conto che stiamo parlando di nuovo di contenuti, di funzioni, di frazioni, ci spostiamo di nuovo su quello, perché comunque come mentalità siamo focalizzati lì, diamo il voto al contenuto, non ci preoccupiamo se lo studente che arriva alla lavagna sbagli completamente l'esercizio perché non lo sa o perché è agitato in quel momento lì. Sbaglia l'esercizio, io do il voto allo studente che ha sbagliato l'esercizio, ma sarà ben diverso se quella persona ha sbagliato l'esercizio perché a casa non ha mai guardato niente, perché è completamente disinteressato, o se si era preparato a tal punto che arrivando lì davanti al professore si è agitato e è andato in palla totale. Ma il voto finale fa riferimento a che cosa? A quello che è il visibile, e il visibile nella maggior parte dei casi è il procedimento, l'esercizio corretto, il contenuto finale, il risultato finale, ma stava bene in quel momento lo studente, l'abbiamo messo nella condizione di realizzare quell'esercizio nel miglior modo possibile. Questo è quello che e mi rendo conto che spesso parlando con gli insegnanti questo aspetto viene un attimo tralasciato, e si torna sempre a discutere sull'importanza di fare bene l'esercizio o sull'importanza di apprendere questo contenuto, ma tralasciando tutto il discorso che è invece lo stare bene, comunque cercare di affrontare le cose nella maniera più positiva possibile, in modo da poi raggiungere il risultato, perché sono due aspetti che si legano insieme, invece ne teniamo sempre in considerazione solo uno. Questo è il problema principale, credo. Questo, secondo me, è un errore che, cioè, secondo me, magari gli insegnanti fanno, perché tentano di considerare gli studenti come dei, non tanto come delle persone che magari devono imparare così, ma come dei piccoli adulti, perché nel mondo del lavoro, cioè, vieni valutato sul risultato. Quindi non è che, cioè, se io faccio una cosa, a chi mi sta davanti non gli interessa se io il giorno prima sono stato male, se per questo motivo o quell'altro. Quindi bisogna vedere, lo studente è un piccolo adulto e quindi deve essere valutato su quello che lui fa, quindi sul risultato che ha, oppure è una persona che è in fase di apprendimento, quindi deve imparare a ragionare, deve imparare a piacergli le materie, deve imparare a fare determinate cose, cioè. Lì è una questione di vedere lo studente. Sì. Ma anche gradualmente con l'età, nel senso che se la scuola deve preparare poi ad affrontare la vita reale, nella vita reale sono tutti presi dalla propria vita e difficilmente ti chiedono come ti senti, che adesso tocca lavorare oppure fare un concorso per un posto. Quindi probabilmente quello che vale per le elementari non vale per le superiori, e le superiori secondo me va bene mettere tutti nella condizione di essere a proprio agio, ma se uno non è a proprio agio ci sta anche questo nelle prove che uno deve affrontare nella vita, sì. Quindi di affrontare l'ansia, di affrontare le difficoltà, di affrontare la paura, di affrontare la competizione e tutto quello che succede nella vita di tutti quanti. Però sì, c'è un dato strano in effetti collegando questo intervento con la sua ricerca, cioè che c'è quel picco fortemente negativo sulle medie, perché da questo punto di vista ragionamento dovremmo aspettarci che il peggioramento vada graduale, invece effettivamente lì forse c'è un problema molto interessante. Sì, quello, il problema è che il fenomeno emerge alle medie, ma poi si mantiene negativamente stabile anche dopo. Sarebbe interessante focalizzarsi solo sulle medie se dopo il dato tornasse positivo, invece questo non succede, quindi o lì si rompe qualcosa che dopo non si riesce a recuperare nel corso del tempo, o comunque anche nella scuola secondaria e secondo grado si mantengono degli approcci, o comunque c'è un contesto difficile. Quindi questo non mi permetto di dire niente perché non ho un dato che mi permette di dire questa cosa qua. Ve lo dico io, alla scuola media c'è un cambiamento nella persona, chiamiamola attività ormonale, e questo influisce molto sulla concentrazione. Questo è un dato scientifico. Quello sicuramente c'era il ragazzo anche. Però quei grafici ci mostrano che praticamente in quinta elementare, finita la quinta elementare, c'è un tonfo notevole. Però comunque finite le medie c'è comunque una lenta ripresa, cioè quindi c'è proprio un problema nella fase delle medie che poi o viene superato o proprio per il fatto che usciamo dalle medie. No, assolutamente, bisogna tenere in considerazione che la preparazione degli insegnanti per la scuola media e per la scuola superiore è la stessa comunque, e quindi bisogna lavorare su quello, probabilmente anche perché ci sono una serie di difficoltà in più nella scuola media, proprio perché l'adolescenza, il fatto che il sistema cambi, bisogna dare del lei all'insegnante dopo che 3 mesi prima stavi dando del tu alla tua maestra delle elementari e l'abbracciavi magari o così, c'è un cambio, ne richiediamo un cambio abbastanza elevato se pensiamo che passano 3 mesi da giugno a settembre, però ci devi dare del lei all'insegnante. C'è un setting diverso, la lezione è prevalentemente frontale, c'è un carico di lavoro in più, tu come persona cambi comunque e stai crescendo, cioè sono un sacco di variabili da tenere in considerazione, questo assolutamente, assolutamente. I 3 anni di medie, anche per quello che ricordo io quando ho fatto, sono 3 anni di stand by, dove se anche la didattica rallentasse un attimo e si depauperasse un attimo anche di contenuti e permettesse poi di partire, di non perdere troppi agganci. Perché forse anche quello, uno perde tutte le sequenze della matematica che non riesce più a recuperare a livelli superiori e il teorema di Ruffini diventa un po' improbabile. In seguito a questa indagine qui, dove è emerso proprio il cambiamento dalla prima alla terza, si è deciso di proseguire nel dottorato indagando la terza e la quinta della scuola primaria, ma nelle medie indagare la prima, la seconda e la terza, perché il cambio è lì, quindi o avviene nella terza o avviene nella seconda media o avviene proprio nel passaggio del ciclo dalla primaria alla secondaria di primo grado, ma le medie infatti proprio in seguito a questa indagine sono state considerate il periodo chiave, quindi vengono indagate tutte e tre le classi, anche se chiaramente comporta una mole di lavoro maggiore, mentre nella scuola superiore invece della seconda, come dicevo prima, verrà considerata la prima classe, perché lì poi si avrà un confronto tra prima e quarta, quindi tra dispersione scolastica e tra coloro che invece hanno resistito, hanno continuato gli studi, quindi percezioni differenti, e qui si avrà dalla quinta elementare alla prima superiore, si avrà veramente un ciclo completo, non ci sarà nessun buco e quindi si potrà valutare che cosa succede in entrambe le ricerche. Comunque posso dire l'ultima, certo, cosa, Luci? Fatto vedere che l'unico settore dove si può intervenire è la formazione dell'insegnante, però tra i settori non è messo l'organizzazione scolastica, cioè, e questa è un'eresia nel paradigma didattico contemporaneo, per quello che ne so, cioè, e se si facessero classi di livello diverso, dove la matematica viene presentata, non diciamo di livello diverso, allora, c'è la matematica giocosa, la matematica per chi vuole fare invece, vorrà fare l'ingegnere, cioè, non si, ci potrebbe risolvere forse molto del problema in questo modo qui. Assolutamente. Perché ma se fossimo. Se fossi guardare solo i risultati, i promossi, diciamo, nella matematica, uno sceglie il livello matematica, gioco, non so. La modalità, diciamo, la modalità, con cui si sente più vicino. Sì, insomma. Cioè, nel senso, sì, secondo me quello che dice è vero, però dobbiamo considerare la difficoltà di attuare un cambiamento del genere comparata con. Non c'è la difficoltà, non c'è la volontà, perché non c'è neanche il paradigma odierno è la scuola dell'inclusione, quindi stiamo tutti assieme e casomai facciamo gruppi di lavoro dove lo studente un po' più bravo spiega a quelli un po' meno bravi. Io credo che questo sia sia una volontà proprio così di questo, non so se posso dire di ideologia, insomma, cioè di. Io credo che il concetto di inclusione, se potremmo parlarne per un'altra ora, però credo che l'inclusione sia un valore aggiunto se fatta comunque in un certo modo. Non bisogna considerare l'inclusione come discorso proprio a prescindere da tutto, bisogna considerare l'inclusione e cercare di personalizzare, individualizzare, quindi chiaramente vedere anche percorsi diversi, magari considerare anche stili di apprendimento degli alunni, stili di insegnamento dell'insegnante stesso. Però quello che volevo dire prima, e puntando l'attenzione proprio sulla formazione, è che tra tutte le variabili che si possono modificare, perché se vogliamo fare un salto veramente impossibile, possiamo anche pensare di modificare la società, e allora, però comunque sono quei cambi difficili, quegli interventi veramente complessi, dove invece nella formazione è possibile che l'individuo stesso intervenga su se stesso, però chiaramente serve un cambio di mentalità forte, questo è necessario, serve che l'individuo, l'insegnante, se vogliamo la scuola secondaria ma anche la scuola primaria, si ponga in una situazione continuamente critica e riconosca le lacune che ha e vada a colmarle con formazione, aggiornamento e quant'altro, non che continui ad aggiornarsi su ciò su cui è già formato, perché altrimenti c'è un circolo autoreferenziale che non porta da nessuna parte. E un altro discorso rispetto a questo, spesso nei corsi di aggiornamento e di formazione, spesso, quasi è un circolo anche questo, vanno gli insegnanti che già lavorano con una certa mentalità. Quindi se io devo andare a formarmi, c'è un corso interessante, un convegno a Bologna, e ce n'è uno magari qui vicino, l'insegnante motivato, l'insegnante che vuole lavorare va a Bologna, si paga le spese e crede in quello che sta facendo e cresce. L'insegnante che invece non ha intenzione di modificare o pensa che quello che sta facendo sia già abbastanza, non andrà così lontano, non investirà sulla formazione, non crede nella formazione. Quindi sta anche agli insegnanti che hanno una certa motivazione cercare di portare e diffondere questo interesse nei loro colleghi, non per un discorso di fare di più, per un discorso che tutti lavoriamo meglio se siamo in un contesto migliore, semplicemente questo. Se si parlava prima del piccolo adulto, se noi vediamo l'adulto che comunque lavora in un contesto, anche l'adulto lavora meglio in un contesto facilitante, in un contesto dove non ci sono carichi di lavoro eccessivi e dove c'è una collaborazione buona. Quindi anche se vogliamo vedere lo studente come un piccolo adulto, possiamo vederlo, ma dobbiamo considerare allora che cos'è l'adulto. L'adulto comunque sta bene, lavora molto meglio in un contesto in cui sta bene, in un contesto facilitante, non ostacolante. Quindi cioè, io credo che tutto vada tenuto insieme, senza togliere nulla. È un mito, diciamo, l'impegno, ed è anche, penso, no, con alunni piccoli, diciamo, come io, per esempio, insegno le medie, no? Fa riferimento a una utilità della matematica o a cosa che, insomma, anche per quello che è stato detto giustamente prima, no? Che il sapere è unico, no? Cioè, ed è un errore separare discipline così, no? Però non si può dire a un alunno guarda, studia perché ti sarà utile da grande, e poi perché la matematica serve a un sacco di cose, non saremo andati eccetera, eccetera. Così non funziona con alunni molto piccoli, no? Mentre per esempio con alunni addirittura piccolissimi, loro vanno avanti da soli. Per esempio ieri guardavo, passeggiando per lungo tardi, vedevo un bambino che raccoglieva, facevamo un pietro di frutti secchi e addirittura li aveva finiti, attraversava la strada per trovarli dall'altra parte, eccetera, no? Questa cosa qui, cioè nel bambino le attività sono abbastanza spontanee, no? Ma quello piccolissimo, poi bisogna cercare, secondo me, di trovare delle cose accettabili, cioè gettare delle esche carnose, perché se non abboccano non si può trascinarli né a fare cose pratiche né a fare, cioè se un'attività non funziona bisogna lasciarla perdere, no? e cercarne un'altra che funziona. Però non è detto che tutto quello che si fa debba essere necessariamente pratico, e io dico perché appunto ho sempre lavorato su laboratori matematici. Non, a parte che il laboratorio matematico non è una cosa fisica dove necessariamente uno deve segare, è una modalità di lavoro, ma diciamo può essere anche astratta un'attività, cioè molto astratta, cioè uno potrebbe essere, non so, adesso faccio un esempio dopo smetto, per esempio uno potrebbe essere lì che fa degli insiemi, per dire, no, arriva a fare l'insieme Q e mette dentro 0,2 3 quarti eccetera. Un alunno potrebbe dire, ma cosa c'è fuori, no? Cioè un alunno da solo è curioso di sapere cosa c'è dopo il razionale, dopo magari noi non riusciamo a spiegargli cos'è un numero irrazionale, però lui da solo va lì, cioè da solo, mentre diciamo il dire a uno guarda che tu non capisci o non arrivi perché non studi, cioè anche questo qui, o non ti impegni, cioè, il discorso dell'impegno è un mito, no? Perché a volte senza impegno le cose vanno, cioè, soprattutto per gli alunni bravi. Mentre per quelli che hanno difficoltà, secondo me è un difetto della scuola nostra, così, e che si accentua ancora di più quando si va alle superiori, è il fatto che l'aiuto che si dà non è un aiuto tarato sulla persona che ha bisogno dell'aiuto, no? Cioè se uno cade in un pozzo non posso mandare giù una corda a un metro se lui è andato giù 4 metri, no? E così via, insomma, cioè, però bisogna mantenere secondo me un aspetto interlocutorio dell'insegnamento, cioè capire anche con gli alunni cosa c'è, che non va per ritarare, no, l'insegnamento, cioè andare su aspetti metacognitivi più che altro, che vengono sempre trascurati, perché generalmente quando un bambino non va bene dice beh perché non si impegna abbastanza, Mario, la mamma, il bastone, l'insegnante, idem, no, è così. E beh, il rischio poi rispetto a questo è che si continuano a portare avanti quegli studenti che già bene o male riuscirebbero ad andare avanti da soli, o che comunque li valorizziamo quegli studenti che sono più interessati o comunque sono più incuriositi, però rischiamo di perderli perché magari hanno uno stile di apprendimento molto lontano dal nostro stile di insegnamento, e quindi noi abbiamo uno stile di insegnamento molto specifico che non coinvolge questi alunni che magari hanno bisogno di lavorare col concreto, lavorare sul globale, sull'analitico, su vari stili diversi, o rischiamo anche di tagliarli fuori per una visione dell'errore, e la visione dell'errore come un momento che non deve assolutamente capitare è un rischio grosso a scuola, perché lo studente chiaramente se non si sente sicuro non proverà mai, invece noi dobbiamo continuare a valorizzare l'idea che l'errore è un punto di crescita, un momento di crescita forte. E prendo ancora D'Amore che parla dello scienziato e fa paragone con lo studente, lo scienziato per arrivare a una conoscenza quanti errori commette, continua a commettere errori finché arriva alla conoscenza, poi ha costruito qualcosa. Perché lo studente quando commette un errore lo bastoniamo, lo castighiamo? Lo studente allo stesso modo deve sbagliare, insieme devono tutti sbagliare continuamente, perché tanto l'errore dà modo all'insegnante di sistemare quello che non è stato capito, ma poi dà modo anche allo studente di continuare a rivedere quello che ha in mente e cercare di costruire il proprio apprendimento. Chiaro che bisogna fare valutazioni di tipo diverso e non arrivare all'ultimo momento dell'unità di apprendimento e guardare solo il risultato, solo il prodotto, guardiamo tutto il processo che c'è stato insieme e vediamo se poi alla fine del processo comunque ci sono ancora delle difficoltà, che chiaramente valutiamo tutto il processo con la massima serietà, però cerchiamo di cambiare anche queste prospettive, o di non continuare a trasmettere l'idea di intelligenza entitaria, cioè che l'intelligenza c'è e cresce, cioè che ci sia già senza che la possibilità di continuare a costruirla e migliorarla. Questa è la teoria dell'intelligenza fissa, quando viene trasmessa e quando anche viene acquisita e interiorizzata dagli studenti, c'è il rischio che gli studenti continuino a lavorare in vista, cioè sulla prestazione, quindi io vado bene, io cerco quelle cose che mi fanno andare bene perché voglio dimostrare, voglio arrivare al risultato e posso farlo. Invece l'intelligenza, se noi trasmettiamo un'idea di intelligenza incrementale, possiamo continuare a favorire l'idea che si costruisce, si sbaglia, si continua a crescere qualcosa, e qui parte dall'insegnante, dalla mentalità dell'insegnante, dalla mentalità della società, da quello che viene trasmesso come messaggi che magari per noi non hanno un grosso peso ma per gli studenti sì, e poi rimane stabile dentro lo studente che cresce con una certa mentalità, una certa visione dell'intelligenza. E allora poi si parla del matematico che fa matematica perché è un genio, no, fa matematica perché si è sempre interessato, è incuriosito, ha continuato a crescere, ha avuto un contesto che l'ha aiutato a sviluppare il proprio interesse. Rispetto a questo possiamo parlare anche del salto che c'è dalle scuole superiori all'università. Prima dicevamo che le scuole superiori vanno già a discriminare chi poi andrà avanti con la matematica e chi no, ma anche le persone che vanno avanti, che vorrebbero andare avanti ad imparare matematica all'università, hanno un ostacolo così grande. Già le persone che arrivano da un liceo scientifico hanno un salto così elevato all'università che rischiano di perdersi. Le persone che arrivano da licei che non hanno attinenza con la matematica, non c'è nessun aggancio tra l'università e la scuola superiore. Quindi è inutile che poi ci lamentiamo del fatto che ci sia poche basse iscrizioni all'università o alle università scientifiche comunque. Una domanda, perché questo è un tarlo che un po' mi rode, ma perché c'è differenza secondo lei tra liceo classico e liceo scientifico? Per quanto riguarda la matematica? Beh, io credo che comunque nel liceo adesso abbiamo preso il classico che mi mette in una posizione. Perché è una cosa che mi sento sempre dire. Allora, io ho fatto il classico e devo dire che di solito quasi tutti hanno fatto o fisico, grazie, o ingegneria, architettura, o chimico, o medicina, per cui di solito era una scuola che ti permetteva di fare tutto. Poi a un certo punto è subentrato, probabilmente è stato fondato il liceo scientifico, e con questo si è partiti con questa cosa che il liceo scientifico è la scuola scientifica. Poi però 4 ore sono di matematica lì e 4 ore sono di matematica là, 2 ore di fisica lì e 2 di là. E mi ricordo che alla fine noi abbiamo fatto lo stesso programma. E forse, quindi ogni tanto mi trovo un po' in imbarazzo. Ci sono più le matematiche, non so se mi sono aggiornata oltre le ore credo che sia anche una questione di mentalità, nel senso lo studente che va allo scientifico è uno studente che ha già un'idea comunque vicina alla matematica e vuole continuare a crescere la matematica. Uno studente che va al classico non è detto che... Ma non che... fanno tutti i lettere lì? Poi no, però se guardiamo a livello medio comunque non tutti gli studenti del classico mediamente non gli studenti del classico, gli studenti dello scientifico vanno di più di quello dello scientifico continuando in questo settore rispetto a chi fa il classico. Posso rispondere un attimo? Certo. Io penso che la preparazione delle due scuole come preparazione, diciamo, dal punto di vista quantitativo, chiaramente chi arriva dal liceo scientifico ha già visto durante l'ultimo anno una parte di quella che è l'analisi matematica, del calcolo differenziale, derivate. Chi arriva dal classico no. Io personalmente ho fatto il liceo classico e poi mi sono laureata in matematica. Devo dire che all'inizio, quando sono arrivata, il primo semestre per me è stato scioccante, perché ero abituata a essere sempre, a capire tutto, a essere brava tra virgolette, e così, e mi sono trovata di fronte a un mondo nuovo, col corso di algebra che era molto astratto, qualcosa di diverso dall'algebra, diciamo, che impariamo attuale, eccetera, intimidite, eccetera. A posteriori, man mano crescendo, ho scoperto che la maggior parte dei matematici fisici che io conosco hanno fatto il liceo classico, e ritengo che il tipo, diciamo, di impostazione mentale sia di grande aiuto. Quindi, come dire, uno arriva e magari sa delle cose in meno, nel senso che non sa calcolare le derivate, non sa, insomma, operare con certi strumenti, però ha avuto una forma di allenamento al pensiero, non so dire bene esattamente. Comunque questi sono proprio dati numerici, man a mano osservavo con, tra virgolette, così, insomma, un po' di cera, tra virgolette, non ci sono state difficoltà spesso per chi ha fatto ricerca. Perché nella mia esperienza, così, di persone o mie coetanee o più grandi, più piccole, quando tutte le cose più scientifiche, c'è veramente un numero molto esiguo di persone che poi studiano materie letterarie. Sì. Comunque io direi che volevo rispondere un attimo alla tua, sì. No, perché secondo me è che stiamo ragionando un po' in termini di provincia, cioè di Bolzano come città, perché secondo me se ci spostiamo già in altre città tipo Trento, l'esperienza che è già il classico e lo scientifico sono molto più diversi che il classico e lo scientifico di Bolzano. Okay. Cioè, tipo, ho degli amici a Trento che, cioè, scientifico, io ho fatto lo scientifico a Bolzano, e amici che hanno fatto lo scientifico a Trento, quelli che hanno fatto lo scientifico a Trento come se avessero fatto un'altra scuola, tra virgolette, cioè dire che lo scientifico qui a Bolzano è più non è proprio uno scientifico vero, secondo me, però tende molto sul classico. Però hanno fatto anche delle hanno partecipato a delle selezioni, so che sono hanno vinto anche delle. C'è una spinta effettivamente. Secondo me questo discorso andrebbe fatto su, abbiamo preso il classico comunque che è un liceo molto buono, però no, dobbiamo fare lo stesso ragionamento su licei che sono più lontani rispetto alla matematica. Le persone che arrivano da licei, il pedagogico, scienze sociali, non lo so, hanno la possibilità poi di andare all'università a fare matematica? Ce l'hanno sulla carta, esatto. Ma poi in realtà hanno acquisito così tante lacune che non avranno, cioè adesso porto la mia esperienza personale, io ho fatto liceo artistico, dopo volevo andare, ho fatto scienze matematiche un anno, con me nel corso c'erano persone che hanno fatto lo scientifico, che al primo, esame di analisi matematica 1, uno è stato bocciato e uno ha preso 19 e veniva dallo scientifico. Io chiaramente ero stato bocciato, ma a quel punto non mi stupivo neanche più di tanto, perché io venivo da un liceo artistico e ero arrivato a 4-5 argomenti prima di loro, diciamo, cioè ero arrivato alle derivate, lì ad analisi si facevano integrali, cose che non avevo, logaritmi non avevo ancora mai visti, rotazioni e quant'altro, quindi io i primi mesi del primo anno di scienze matematiche, perché poi non ho più resistito, diciamo, e l'ho passato proprio tutto il giorno a cercare di recuperare quelle lacune. Oltre a recuperare le lacune, però dovevo preparare anche l'esame in vista di gennaio. E questo cumulo di materiale, per quanto una persona possa impegnarsi, poi chiaramente parliamo della media, io non sto parlando, ci sono anche eccezioni, persone che hanno fatto di tutto d'arte, che ce la fanno e quant'altro, ma mediamente questo cumulo di lavoro poi non aiuta. È quello che parlo quando dico il discorso, il legame poi dalla superiore all'università, c'è un salto tremendo, è un salto già tremendo per chi ha fatto lo scientifico, figuriamoci per chi non ha chiaro il concetto di dimostrazione. Per me arrivare all'università e vedere il concetto di dimostrazione è stato un peso incredibile, cioè perché io devo dimostrare una cosa che è già chiara così? Mi sa che dobbiamo fare una seconda puntata. Eppure viene richiesto, cioè. Quindi no, io ringrazio tantissimo Silvio Cappello, Leonardo Coletti, la professoressa. Adesso le scrivo un messaggio e dico che ora abbiamo finito, cioè, ecco. Così non si sentirà in colpa ad essersi andato. E non escludo che ritorneremo, come già avevamo fatto precedentemente, anche con la professoressa Bertotti sui nostri passi, e come avevamo fatto anche con il professor Coletti ancora 2 anni fa. Riproporremo questi temi in chiavi nuove, perché alla fine, insomma, sono interessanti e soluzione giusta, e ci dobbiamo impegnare un pochino. Tra un anno vi porterò qualche dato in più rispetto alla ricerca del dottorato, che posso portare tra qualche anno. Ecco, benissimo. Forse vediamo. Grazie.